benissimo. Troppo roccio. Manda bene allora, dottor Chi. Dottor Chi, dov'è dottor Chi? Allora, la città delle bombarde? Io positivo, sempre lì, città bombarde, andiamo e torniamo sempre come che Dio vuole. Positivo il capo di roccio, allora. Hai sentito che ha ucciso la Santa Museini? No, non ho sentito niente, quando l'ho ucciso. Oggi, sparato prima le gambe e poi la testa, gli hanno fregato anche la pistola di oro. Ehi, cascio! E chi l'ha ucciso? Gli americani o gli inchi? O i suoi alleati stesso? Ah, i suoi alleati, e poi si dice che questo ragazzo di 22 anni l'ha sparata la testa e gli ha pegato la pistola d'oro. Fatto bene, almeno c'è un capitano. Beh sì, già va bene, come. Ehi, ehi, poverino, pace all'anima sua, allora, pace all'anima sua, che riposi in pace. Quello sì. Ma già hai mangiato pane e sette forni, Domì? Quello sì, ma se è vero che ripagano tutto quando vanno di là, vieni ad ascoltare. Ammuglia. Boia. Ma piano piano glieli fanno fuori tutti. Ma non ce ne vogliono i dittatori, no, ma stiamo scherzando. No, ce ne vuole le tatture. Adesso ce ne andiamo in Libano a lavorare. Libano, se era stato qua era meglio. Se si cambiano le cose, un'altra rivoluzione ci voleva, più bella di quella che è successa a Roma, però. Più bella. Ah, quello sì. Ma già ci mancherà poco, viene da farlo, Guarda, non sono contento delle macchine bruciate. Ma detto l'altro sì, per tutto l'altro sì, sono contentissimo che è successo. Sì, io guarda, quello che non mi è piaciuto è di quel ragazzo che è entrato a prendere la statua e sbatte la terra, cioè è un gesto poco piacevole da vedere, dai. Non sì, di qualsiasi religione sia, non è una cosa per quella cosa lì. Delle macchine incendiate, mi è dispiaciuto. Da tutto l'altro va bene tutto l'altro è successo, perché tanto non la vogliono capire. L'Italia quando ha voluto qualcosa l'ha ottenuto sempre con la forza, mai con, perché hanno fatto qualcosa i politici. Ah, quello già è vero, ma non sarà nella prima manifestazione, nell'ultima, perché ha detto. Stavo dicendo adesso successivamente ne faranno altre e compagnia bella, ma è giusto che sia così, bisogna svegliarsi anche noi italiani, perché mi sa che stiamo dormendo un po' troppo, e dove? Più positivo, proprio così, stanno allargando troppo, dopo noi non ci fanno valere più cazzo, quindi salgono al potere, comanderanno loro e non dobbiamo stare zitti come sempre. E quando abbiamo voluto qualcosa l'abbiamo vinta sempre così. Tanto vogliono così e così si avranno. Ah, quello è poco ma sicuro, ma è meglio che lo facciano, almeno si svegliano un po' dal letargo, almeno si sveglia un po' dal letargo domani, se no è una cosa è grave, molto grave. Come Yuri. Molto grave, sì. Silenzio stampa oggi, boh, non capisco perché tutti quanti continuano a chiamarmi Donatella. Chiama Roci. La verità, ti ho sentito ma ero al piccolo, capito? Ti ho sentito ma ero al piccolo. Al QTH piccolino, bisogni precari. Allora, stavo leggendo le prime pagine, non mi... Allora, forse è l'unico posto dove puoi leggere. Vabbè, ma che lasciate dove è stasera? Allora d'accordo che si fa chiamata su 5, dai, lo vedi, no? Quanto si lascia a casa lui? Ah, Caccomela, Caccomela, la veremela Caccomela, tutto bene, positivo e il capo di Rogero centro Sisa, avanti la portante. Adesso senti domenica che ti nascosta, in ascolto, domenica, cocco, ma non mi racconta. C'è un grido che ha fatto la ventaglia. No. C'è un grido che ha parlato domenica, c'è un grido. Io, per carità di Dio. Ma il bello che più si gira, più odore esce, domì. Più si gira, più la monica sa e più piace a me la esiti. Segno vedete che le piace così. E noi siamo contenti per esso. Io. Aveva ragione l'ultimo che ha detto, non avevo trovato il cancro nettuno. Positivo salita in saccaggia, positivo è cappa di roccia. Va bene, dove dai? Già ci ascoltiamo più tardi. Fate cosce belle, ci si riascolta più dopo, Domenico. E a più dopo, dove dai, che vado a fare un po' di carichetto, dai. Fate la buona, Domenico, ciao. Attenzione al canale 10. Aspetta un attimino. mi ha detto al Google Explorer, dimmi il nome, ma non so fatto, dimmi il nome. Pokerstar. Pokerstars. Pokerstars.it. Allora smettete. Allora poker, c'è una similità, stars.it. Ok. Nel play money, ti danno, aspetta che guardo. Allora si gioca su pokerstars.it. Sul premio deposito 400 euro software. Aspetta un attimo. Esegui. Non salvo niente. Sta eseguendo l'installazione. Ok, io di Money, Play Money ne ho 6987. Aspetta, no. Vediamo un po'. Tanto il mio nickname è Lugariello. Ciao Tore. Quella ditta. Buonasera a tutti quanti. Ehi, ciao Luca. Ho provato dove l'andava a locare l'applicativo sotto il Mac. Quindi già l'hai trovato usando il PAL server? Sì, sì, praticamente nel Mac sotto il, diciamo, la home del mio nome c'è tutta la trafila, Marcavero, la release, password, poi altri paio di 150.000 directory, poi lì sotto trovo l'applicativo compilato per il Mac. Ah, quindi l'applicativo compilato per il Mac nell'host Windows? No, nel Mac. Ah, nel Mac, ok, ho capito. Ho capito. E in termini di dimensione quant'è? La metà rispetto a Windows, perché sotto Windows sono 8 mega e sotto Mac sono 4 mega rotti. Ah, beh, sono contento. Questa è già una cosa carina. E la grafica ovviamente è una grafica Mac che è cosa che traduce, giusto? Sì, però non fatto, perché allora io adesso ho fatto un applicativo dove ci sono dei button, poi c'è una manopola, poi c'è la barra di progressione, dove sotto Windows è verde e scorre, invece qua rimane grigia su grigio scuro, i colori sono quelli che sono, però il resto è stile Mac, ecco, cioè, proprio si vede che è un Mac. Poi penso, poi adesso devo vedere, perché alcune VCR non vengono compilate, bisogna fare un fork around per importarle, insomma, non è tutto semplice, però diciamo che si può fare. Ecco, io sto ancora con un battendo con il riconoscimento della macchina virtuale dove gira l'OS X Lion al mio host. Non c'è verso, sto combattendo per cercare di... Sono arrivato a un punto dove mi accettava la stessa classe di indirizzo IP dell'host, ma non si faceva vedere. Sì, ascolta, nelle impostazioni, tu hai detto che usi VirtualBox, nelle impostazioni di VirtualBox, della macchina virtualizzata, la scheda diretta cosa hai messo come scheda diretta? Le ho provate tutte, c'è il NAT, c'è il bridge, c'è il locale. Allora, se non ricordo male dove si usava il bridge, perché avevo questo problema quando virtualizzavo Linux e viceversa, e l'unico modo era di usare il bridge in modo che diventava trasparente e riuscivo a vederla. Il bridge mi accetta gli indirizzi, riesce ad uscire fuori ma non vede l'host, porco cane. E quindi sto combattendo su quella, su quel lato là. Allora, posso interrompervi un attimo? Certo, Luca. Allora, cacchio, un po' di domande ti fanno qua, vabbè, nome e cognome, ho messo, allora, qua dice ho letto e compreso il contratto di licenza da utente finale, poi c'è l'altro, politica e privacy, accordo dell'account di gioco, cosa devo fare? Tutta tra le spunte devo mettere. No, ma devi creare l'account, poi comunque, siccome tanto non stiamo giocando a denaro vero, il contratto lo dovresti comunque spedire con i documenti, fronte retro, eccetera, eccetera, eccetera, solo esclusivamente nel momento in cui dovessi decidere mai un giorno di giocare a soldi veri, capito? Quindi questa parte qua la puoi tranquillamente fare, e scegliti uno user ID, una password decente che te la possa poi ricordare e prosegui. Ecco, registrato il break, allora qua praticamente ho la pagina aperta. Lo devo fare, c'è scritto qua cassa, vai tavoli posto. Ah, hai già fatto? Certo. E che diamine, io pensavo che stessi al... Mi fai ridere. Buonasera Salvatore. Scusa Massimiliano, scusaci un attimino perché Luca insomma, è un tornado. Ciao no, Luca, buonasera a tutti quanti. Ciao Giuseppe, avanti Massimiliano. Ciao Giuseppe, ben sentito. Salvatore, se tu vuoi, se hai un account Skype, ti posso far vedere un attimino quello che ti ho realizzato tramite la web, così vedi il passaggio da l'uno all'altro, se vuoi, non c'è nessun problema. Prego. Ah, meno male, no, perché chi entra sbattendo la porta è ben accolto, chi fa l'educato non è accolto, com'è questa cosa? Però ho anche sentito, avanti. Mi hai registrato tu, mi hai sentito comunque ben ascoltato anche a Salvatore e a Archimede e a Giuseppe Leoncino, in grotte. Prego. Allora, va, Salvatore, scusate un attimino, qua sei greca, non canale, puoi spostarti. Per cortesia, così facciamo questa cosa qua, altrimenti però bisogna farlo. Oh, scusateci un attimino, dai, facciamo questa greca. Vai allora sul 15, Luca. Dai, così ti seguo su questa, con questa installazione e poi ritorniamo su questa, dai. Allora, guarda, ti devo dire una cosa. Chi è che mi sono dimenticato di salutare? C'è Antonio. Breto. Perfetto. E allora? Breco! Hai visto? Ben entrato, ma cioè brechi e ti mettono in fila. Fai lo stravagante e sei ben accorto. Ui ui! Se non me ne vedi già stiamo andando bene. Dai, vi saluto, vado a fare un po' di carica, se ci siete più dopo, se non ritenetevi tutti super salutati, d'accordo? Giuseppe. Eccolo. Ciao Falche, buona carica, ci sentiamo dopo, dai. Avanti, chi è Fabrizio? Ciao Anto, ciao Falche, buona carica, ci sentiamo dopo al limite. Chi è che è rimasto? Cino. Ciao Leoncino. Ciao Fabrizio, occhi di gatto, buonasera. E invece Leoncino, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto, e tu? Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, non ci lamentiamo, perfetto, meglio questo. Avanti Anto. A me perché non mi hai salutato, sì, si ho preso ho salutato tutti, io ho detto buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10. Cosa si intende, Anto? Che tutti quelli che ci sono in ruota li ho tutti salutati, Non intendere intenda, chi non intenda è roulotte. Capo, ma dove sei io, Anto? Vicino. Ma in macchina sei? No, negativo, nell'altro QTH. Ah, ho capito, via dell'altro altri. Ma se no dove abbiamo smesso di ingrassarla e di rimettere il nostro stradale, che è un casino. Avanti, Brizio. Oh, che ci siamo, io sono vicino. Stanno rientrando perché stanno, non so, ci doveva spiegare un attimino come fare una cosa su un sito internet di videofattori, ragazzi. Morale, mi è costata un pranzo da volare quella cosa. Comunque sono riuscito a recuperare i soldi, dai. Io quasi lo... Anche se riesco a beccare questo amico per fare questo allineamento, se no lo mando veloce una settimana e lo faccio allineare, così, perché deve essere disaccoppiato qualcosa. Se stai uscendo con quello, stai uscendo benissimo. Io non riesco a capire poi alla fine perché... secondo me già è uno strumento talmente poco vicino a quello della perfezione che è inutile cercarla. Capisco che ci si voglia avvicinare, però se già consideri che è un apparato che a seconda di quanto scalda, di come scalda, ti dà prestazioni diverse, io obiettivamente non ci avrei sbattuto la testa più di tanto. Stai uscendo benissimo, vuoi darti una fucina? No, in trasmissione non ha nessun problema, è perfettamente centrato, ha problemi di ricezione, capito? Problemi di ricezione. Tanto sono sicuro che c'è qualche diodo su qualche diodo che ormai è andato. E quindi è quello lì, è tutto quel QRM. San Parodia, ma credo che sia rimasto Archimede però qua, eh. Avanti, ma ci vediamo. Buonasera a tutti, spero che tutti mi sentiate, oggi sono a risparmio di potenza. Buonasera a tutti quanti, intanto Fabrizio, c'è Antonio, poi vabbè Falchetto che ha chiuso, poi c'era... chi c'era? Adesso mi fugge anche l'altro con la voce fine. Leoncino, cambio. Canale ascoltando sull'altro, sei un grande. Ecco, Leoncino, giusto. Va bene. Allora, giusto per la cronaca, facciamo le prove. L'importante è c'ho 100 milliwatt. E quando modulo arrivo a un watt. No, stai riuscendo bene. Stavo dicendo, perché hai due apparati accesi, sì, o ti stai portando dietro, come si dice, Luca che modula? Ma che mi porto Luca che modula, o qualche un altro, perché si sente qualche cosa sotto, però si sente quando schiaccio. Ma si sente che stai ascoltando da un altro apparato su un altro canale, aiuto. Se ti stai portando tutta questa mondezza è preoccupante. Forse la televisione senti che c'ho qua vicino. Ragazzi, aspetta, adesso me ne sono reso conto, non senti, sono io che sto portando dentro Montezza di vicino, cioè talmente vicino e forte che mi sta flatterando anche se sull'altro canale, capito? Infatti mi sembrava strano, poi anche con questa poca potenza ho detto a riuscire, insomma, è allucinante la cosa. Su e lui. Perché chiaramente adesso glielo dico, ma glielo ho già detto, il concetto, vedi, tu stai uscendo bene, ci stiamo sentendo, ma il concetto di è come se siamo in una stanza e qualcuno di noi inizia a urlare. Alla fine tutti dobbiamo urlare per capirci, se invece teniamo tutti quanti le ali basse, che non è il caso, ci sentiamo benissimo in tutta stanza senza bisogno di stare lì a pompare e aspettare gli apparati. Guarda, c'è un'attività radioamatoriale che si chiama QRP, ovvero lo scopo è quello di riuscire a collegare, fare collegamenti il più lunghi possibili con il minor vantaggio possibile, ma minor vantaggio sì, significa usare i milliwatt, neanche il watt, praticamente tutto quello che viene sotto il watt. Se si parla di 100 milliwatt, qualche uno 50 milliwatt, qualche uno c'è anche 10 milliwatt, e riuscire in HF a fare il giro del mondo così. E quello che viene permettato tantissimo sono le antenne e i ricevitori degli apparati. Mi sa che conviene fare questo tipo di attività qua nella 27, vedere un po' cosa riusciamo a fare. Ma guarda, se stai parlando con un conservatore, quando tu parlavi di Dio di Al Germano, o Germanio, è perché realmente a me piace costruire le radio a galena. Prima i radioamatori realmente le radio se le costruivano, se le autocostruivano. Ora, nel momento in cui hai delle radio, per me è il massimo del sofisticato, può essere, guarda, un gamebook. se non è troppo, perché se andiamo oltre, se andiamo oltre, al pari di avere un telefonino, cioè è assurdo dire che sono arrivato in America, e dico 700, 800 watt per non dire un kilowatt, è normale che ci arrivi, o normale, è sicuramente molto più facile. Fabrizio, dimmi oggi, la questione è risolta? Non credo proprio. No, ho provato anche un telefono normale, io ho staccato tutti e due e entro lo stesso. Tra il capo, Ma non credo, però quello che c'ho domani devo partire. Questa settimana come rientro faccio quella prova. Cavo, per assurdo è colpa sua, perché sicuramente si è sdoppiata le prese senza che gliele abbiano fatte. Ma la colpa è sempre tua, ricordato. Purtroppo lo so, te l'ho detto, perché viviamo restaggi degli anni 70 dove era tutto obiettante ed eravamo tutti pirati. E poi bisticciare, devi risolvere il problema, la signora della certa età, devi risolvere il problema e siamo tutti contenti, speriamo. Ma come puoi fare? Ma qualsiasi potenza mi hai detto comunque, vero? Yes, però credo che magari se cambia parecchio, magari non glielo fa, capito? No, ma perché l'ho già vissuta questa cosa, l'ha vissuta Daniele, comunque ha ragione Gianni doppio rume, è un particolare difetto dei Kenwood questo qua, perché hai visto, ci sei entrato, se provi un altro apparato anche con un generaletto con la stessa potenza non c'è. Adesso la faccio la prova, cioè prova a farla la prova, se così lo vendo. Oh Fabri, dimmi non c'è. Mi è successa la stessa cosa, no? Che ero sotto a casa della mia ex moglie, lì in via Cesaraccio, ero fermo dove c'è il palazzo di fronte e io stavo parlando con Gio Maria lì alla Troce e questa qua mi si avvicina e mi ha detto guardi che la sto sentendo nel coso del computer. Infatti io parlando e lei mi stava sentendo tutte le cose che stavo dicendo nel computer. Lo so, non è vero, può capitare, sono armoniche, spurie, casino. Sai, per un periodo che Radio Venere non aveva il mixer fermato, ma sai quante volte ci siamo entrati lo stesso, ma ti parlo di 20-25 anni fa, mi capitava spesso. Bravo, io poi ho spento la segretaria, parlando normale, non entravo. Accendo la cosa, la segretaria, ed entro nel computer. Me lo spieghi? Corretto, sì, per forza, perché le bombine d'avvolgimento delle casse facevano l'antenna, come dice Massimiliano, c'era qualche nido dal Germanio e entravi dentro e faceva la ricevente. Qualsiasi cosa fa la ricevente che abbia una bombina in RAM. E cazzo, strano, ho detto vabbè, gli ho chiesto scusa e ho preso, me ne sono andato, ho spostato tutto, non ho capito, dunque, però mi sono spostato di zona e dice che continuavo sempre a entrare nel computer, ho toccato allora e ho detto, c'era di questo suo, del suo computer che non è schermato. Tu stesso l'hai detto che sei uscito con la segretaria, è normale che uscendo con la segretaria, un motivo per cui realmente dovremmo uscire con i quattro è... Cioè, perché questo motivo? Perché comunque è come se un emittente radio così vicina che spara quel numero di biscotti, è normale che crei questi problemi. Adesso io non mi sto più mettendo a modulare qua sotto casa mia, perché dice che c'è questo che io rientro nel televisore, capito? Questo vicino di fronte a me, no, nel mio palazzo. Dice che tutte le volte che io modulavo nella macchina, che sia con la segretaria o senza lei, entravo dentro il televisore, ma allora deve essere già il decoro che lì non funziona bene. Un attimino, scusate, faccio un attimino una spazzola segreta sul 15 al ritorno. Avanti Massimiliano. Ehi, avanti. Vabbè, buonanotte, io a quest'ora poi. Sono stanco. Va, va, va, non un controllino un po' da la piccia in ascolto, ti sto crescendo veramente millimetri fuggi con pochissimi, con meno di mezzo watt. Aspetta, sono a 10 a adesso 100 milliwatt. E non picchi da un watt. Come arrivo come segnale? Mi stai arrivando, a me mi stai arrivando 9, 10, radio 5. Fruscio non ce n'è, cioè non esco pulito, sì. Pulitissimo, Massimiliano. Non ho capito. Vabbè, a te? Cioè, siamo rimasti noi due solo, non ce n'è un altro in ascolto? No, sono spostati verso il 15, non lo so, che c'era Salvatore, poi Luca e compagnia bella. Vabbè, pazienza. No, visto stavo ancora lavorando, sto facendo alcune cose al PC, sono solo giorno attaccato in questi monitor. Arriva quest'ora che sei cotto. Appa, Massimiliano, uno quando c'ha questa passione ci sta dentro e non vede l'ora di smettere per distrarsi un po', guardarsi un po' di televisione e poi domani sarà un altro giorno al trabacco. Io, sai cos'è? Io della passione ne ho fatto un lavoro, perché io faccio sia elettronica che informatica, oltre a fare anche radiofrequenza, e perciò per me è tutta una cosa sola, sia che stia lavorando per passione, tanto quando lo sto facendo è perché è per lavoro, però ci ripeto, ho fatto della passione un lavoro, perciò non terminerò mai, sto sempre appiccicato. Dove ce l'hai lo studio, Massimiliano? Il laboratorio ce l'ho in via Savoia, lo dico perché tanto non è un segreto. E io tra le altre cose ho il centro autorizzato della CTE, le marche Alan e Midland. Sappa, ma cosa fai? Ripari baracchini oppure o altra cosa ripari? Io faccio maggiormente, vabbè, lì facciamo sia informatica, cioè riparazione anche computer, assemblaggio, poi quando mi chiama la CTE faccio assistenza sotto garanzia degli apparati loro, Alan e Midland. Poi capitava qualche volta di qualcuno così di sistemarlo, però non lavoro col pubblico perché non ce la faccio, io maggiormente lavoro con le aziende, cioè faccio servizi per le aziende. Ah, capo, ho capito, Massimiliano. Vabbè, cosa vuoi, ma quasi attaccata a scarpa, sì, è giusto? Guarda, ci sono delle antenne sulla ringhiera, cioè c'è poco da sbagliare. Sì, diciamo che sono non tanto attaccato di fronte a scarpa, dove c'è il centro di casino, per intenderci. Sono lì. Ripeto, non so facendo perché anche Roberto mi aveva chiesto di sistemargli un amplificatore, poveraccio, ce l'ho più di un anno, ho fatto già buona parte del lavoro, poi mi sono dovuto fermare perché avevo problemi io con altre cose di lavoro, poi ho dovuto portare il trasformatore a farlo riavvolgere e devo ancora andarlo a recuperare, poi ho avuto problemi adesso a casa, insomma sono sempre incasinato, poi con quel lavoro principale che mi porta via maggior parte del tempo, capito? Poi sto seguendo delle aziende, insomma, e mi riempiono il tempo, e quando è così poi dopo non ce la faccio a conciliare tutto quanto, qualche cosa la devo lasciare indietro, allora preferisco non fare determinate attività proprio per non passare poi per uno che non fa il lavoro, quando purtroppo al lavoro ne faccio anche fin troppo. Ho capito. Ma di una cosa, ma un'altra cosa, tu fai modifiche anche per baracchini, no? Mi è capitato qualche uno così, ma non... ripeto, è una questione di tempo. C'è tutta quanta la attrezzatura in laboratorio per l'arresto, per fare gli allineamenti e tutto quanto. Me la sono presa già da un paio d'anni che ce l'ho tutta quanta completa. Adesso mi si era rotto l'anno scorso l'esatto di spettro, adesso ne devo prendere un altro, però per adesso c'ho tutto ciò. C'ho addirittura anche l'aggiatore di rete per i filtri, per le antenne, perché io ho la passione di costruirmi le antenne. Poi per costruire le antenne devo avere delle attrezzature specifiche per poter vedere i guadagni, l'andamento del rosso, tutto quanto. Allora c'ho una macchina dove attacco l'antenna e mi dà tutti i parametri, proprio me li fa vedere sul monitor, insomma, come fanno, diciamo, quando in fabbrica realizzano le antenne e le testano. C'ho un macchinario del genere. Perché io ho un Midland 100 Plus, io volevo fare una modifica, quello lì che volevo un po' maggiorarlo, capito? Dunque volevo sapere la gente. C'è 2.5. Oppure da qualcuno che c'è la campana. Maggiorarlo pure di potenza, capito? Questo è 5 watt, io lo voglio portare massimo 20 watt, capito? Se c'è una spesa 75 lo vuole fare, capito? C'è molto la spesa. Guarda, sicuramente si può modificare, però non si saprei dire. C'è una cosa, Gigi Vulcano, che c'è un amico che fa le modifiche, bisogna già riesce a spingerli bene, non gliel'ha chiesto a lui? Sì, vabbè, questo è, ce l'aveva, Gigi Vulcano ce l'aveva uguale al mio, però solo lui mi ha chiesto per fare questa modifica ci vuole più di 120 euro. Tra una cosa e l'altra si aggira 200 euro. Anzi, per 200 euro cazzo preferisco cazzo comprarmene un altro modificato ed esco con quello, capito? E per lui, Lucci, però cazzo, cioè, costano così, capito? È gratuito, però cosa ci vuoi fare? I costi sono quelli. Vabbè, lo so. Avanti. Buonasera a tutti, dai. Ciao Gianni, ben sentito già. Massimiliano, guarda che io ti sto aspettando, guarda che non lo spedisco, aspetta a te, però me lo devi fare. Vabbè vai, ti prometto che vedo di fartelo, ok? Ti faccio però il tuo che trasmissione va bene, io ti faccio il rendimento della ricezione, del ricevitore, va bene? Sì, dai, io guarda, se tu mi dici va Fabrizio te lo tengo un pochettino, te lo lascio pure, tanto però dico che il problemino è quello del motoQRM, probabilmente c'è qualche diodo in dispersione sicuramente, quindi qualcosa ce l'ha. E poi l'altro giorno, se ti ricordi, provando ha problemi in FM, in FM praticamente è sordo ed ha leggeri picchi negativi, magari lì vicino al discriminatore, non so, qualcosa del genere. Io ti faccio l'allineamento come da parametri di fabbrica, poi vediamo che cosa è successo, ok? Ma tu mi hai detto che devi andare fuori per una settimana? Non proprio, perché tu sì, domani parto, perché tu tanto se gli dai un segnale all'ingresso, poi lo segui e ti renderai conto magari dove c'è il problema, no? Perché poi l'altro parlante deve uscire, praticamente deve arrivare il segnale quando glielo sbatti dentro e vedrai che ti renderai conto che ti troverai da qualche parte dove se sei qualche diodo, secondo me ti è andato in corto, sei in corto, in dispersione sicuramente. Non è detto, non è detto che sia così, ci può essere anche qua, cioè starato e sta prendendo porcheria anche per quello. Guarda, è che non ci avevo pensato di fare le foto e fare alcune riprese con quando questa parte che tu stai sentendo, era praticamente da buttare. Infatti adesso ne ho un altro, padre quanto, sopra di questo, che l'ho preso da un collega rianimatore, ma gli si è fulminato la CPU, infatti non andava più per quello. E glielo, scusate, l'ho preso per tenerlo al gemello per tutti i ricambi, ma mi sta venendo la voglia di metterci in mano e di ripararmelo. È un gusto, cioè quando le puoi fare, quando c'è tempo e ti diverti, però quando sei incasinato, come ti ho sentito un po' come tutti, alla fine, io devo andare a fare una telefonata in quella cosa bianca, un attimino, e riprendo fra un po'. Comunque io praticamente parto domani mattina presto, anzi infatti non so nemmeno cosa cavolo prendere di pullman, cioè prendere uno o l'altro, spero di non perdere l'aereo, devo andare a Milano e rientro, credo lunedì mattina rientro. Poi se ci sentiamo magari vediamo di organizzarmi, ci vuole, sono disponibile in questo periodo, io però do e poi vedi tu. Il discorso è che mi devo portare l'attrezzatura a casa, perché in laboratorio non ce la faccio a lavorare. Lo dovrei fare a casa durante la sera, dopo cena. Vedere un po' questo fine settimana di organizzarmi, vedere un po' cosa riesco a combinare, così poi quando rientri la settimana prossima intanto ci attoppiamo in frequenza e poi vediamo come fare. Va bene, vediamo un po' se riusciamo a fare questa roba qua. Adesso passo un attimino in quel RX che devo fare una cosa, quelle cose brutte. Non fare come ha fatto con mio figlio oggi, poverino. Il corino ha quasi 4 anni, si è seduto e c'era la magliettina troppo lunga, quella intima, e come si è seduto la magliettina si è ripiegata sotto il sederino, è andata a fare e non usciva niente, si era trasformata dietro. Poverino, io quanto ho capito c'è due bambini come me, più o meno dell'età dei miei, uno di 3 e uno di 8, tu ho sentito bene uno di 10 e poi l'altro non ho capito se è più grande o più piccolo, è anche il mio, papà ti chiama e piange quando papà non esce, e poi ci posso, non esce, poverini. Sì, ne ha uno quasi di 4, l'altro di 10. ma il piccolino è argento vivo, ne fa per 8, ne fa. È uguale il mio, se lo vedete spaventi in confronto al primo, i secondi sono sempre così, dai, esci che mi avvicino là e poi ci sentiamo dopo, riprendi, ci vediamo. Non ci riprendi, dai, che state imbiancando. Gianni. Se prendo io, mi stavo facendo le foto con il mobiletto nuovo, così le metto su Facebook. Fai bene. Con Antonello stavamo vedendosi di formare il gruppo QRP. Che Antonello? Pesce. Antonello fa 340. Ho capito. Voi avete tutti il Pinwood qua, sono io l'unico che ha baracchini e basta. Non si richiede delle marche particolari, va bene qualsiasi marca. Tu ci puoi partecipare al gruppo QRP. Sarebbe. QRP in ambito materiale significa bassa potenza. Stavo dicendo a Antonello che praticamente, Antonello, si chiama Antonio, che ci sono delle attività allenatoriali dove si cerca di collegare il resto del mondo, cioè località lontanissime, con il minor potenza possibile, praticamente tutto sotto un watt, si parla di 100 milliwatt, 50 milliwatt, si curano tantissimo l'aspetto delle antenne e dei ricevitori. No, io partecipo con questa radio, vabbè. E puoi partecipare anche con la radio, basta passare la potenza al minimo, non c'è nessun problema. Mi piace fare il QRP, posso anche farlo, salutino di notte, sarebbe bello farlo così, in effetti, perché non c'è bisogno di potenza di notte. Allora mi devo cercare alloggio, buonasera a tutti. Allora ormai me lo studiate già. A Claudio non gli piace la bassa potenza. i microfoni si lasciano amplificati, no? Non c'entra niente, si sta parlando solamente della potenza di uscita e basta. L'amplificazione quella ci deve essere, già lo sai, no? Che uno degli aspetti è quello di dare un po' di enfasi alla microfonica pur tenendo bassa la potenza. Poi quello che rende tantissimo sono i ricevitori di chi sta ascoltando e le antenne di entrambi i due interlocutori. Allora, io come ho detto poco fa sto erogando intorno ai 100 mW con picchi da quando fischio arrivo a 1 watt. Giusto così, è un gioco, non è che debba essere una cosa obbligatoria, per carità, è giusto per giocare. Ma tu puoi giocare con quelli che hai vicino, se non ti la battenza io fra un po' ti ascolto più, capito? Faccio QRM, quindi non lo so, fate voi, sì, a me non mi interessano questi giochi, già lo sai, li abbiamo fatti forse i primi, siamo stati noi a giocare con l'817, perciò non mi interessa. Abbiamo un'altra radio, ma vi sentite per la Sardegna, no? Quindi che c'ho un tiro di schioppo. Vabbè, buonasera a tutti comunque. Se lavorate in QRT, buon QRT, allora io mi sposto su Canale 12. Sì, non c'è problema. Il bello fa sentire tutta la Sardegna con la... con 10 mW, taglio dai Claudio, che tu sei il campione mondiale, poi dove sei a torre di controllo, vuoi che non ti sentano con pochi watt? Oh, non sono più torre di controllo io, non mi interessa mettermi a sentire dentro Sassari o Massimiliano, a me ti ho detto, tu mi conosci forse prima di loro, io ho schiacciato il portante, voglio che mi sentano tutte le parti, non come succede a volte con chi sta parlando, con chi non sta parlando, non mi interessano le tre cose, ma si vede, lo sai. Io sono nato dal combattimento voglio morire, mi voglio far sentire, non mi interessano le prove del processo. Tutto qua, se non va bene non c'è un problema, voi fate QRT e io faccio QRT. Guarda come che dà. No, ma che? Prima di ammazzarmi è difficile, mi cogliere un tiro di valla a capo. Mi devi gattigare prima. I tuoi 5 vati usali, no, non c'è nessun problema. Non siamo mica qua a stressarci. La radio già lo sa che è un modo per divertirci, per scaricare un attimino la pesantezza della giornata. Ecco, rientro. Se lo guardiamo tutti assieme un secondo. Vabbè, Massimiliano, sono opinioni diverse, io ce le ho diverse, quindi faccio radio con le mie opinioni, non è che chi vuole fare QRP fa QRP, io tengo il volume così, la potenza è sempre a 50 watt e basta. Avanti Salvatore, buonasera. Buonasera carissimo Claudio, Gianni, tutti gli altri amici, ciao Max, siamo rientrati con Luca dopo che ci siamo fatti una sfida, un ok corral all'ultima chip. Saluto di nuovo a tutti. E quindi a Salvatore, ciao il lobby del giocare a poker al computer. A me mi invitano, ma addirittura ho cancellato tutti gli inviti e ho tolto anche gli inviti, ma gli ha detto perché non mi interessa. Io gioco con le carte, se mi invitano a giocare gioco dal vivo, no, al computer, non mi piace giocare al computer, quindi non c'è sviluppi. Io ho la mania di farmi sentire e mi sfida così. Avanti Gianni, che c'è questo penale? Io ho salutato il bastardo, sono qui ci sia. E là, la approfitto anche a salutare Salvatore, che non l'ho salutata. Ciao Salvatore, vuoi sentire anche a te? Ah, ci siamo io, Fabrizio, Massimiliano e Leoncino c'era, però poi non lo so se Leoncino sarà tu, perché l'abbiamo chiamato ma non ha risposto. Leoncino, sì, niente, non risponde. Riprendi tu Claudio e poi vieni a far girare, là. Oh, sono tornato anch'io. Sto bene, credo che ti sì, altro volume, non ti intendo. Avanti Fabrizio. Altro volume, non mi senti? Penso sì, altra voce volevo dire, non volume. Avanti Fabrizio, riprendi a girare. Fabrizio mi serve sembra che stava facendo un deposito. Un deposito? Vabbè, quando vuole, vuole prende. Avanti Luca, allora. No, io sto facendo un approccio con l'osservatore di... E anche lì sono sto qua, una prova di poca, allucinante, ma va un... c'ha un più culo che anima. Vabbè niente, siamo orientati qua, no? Siamo avanti prima. Vabbè, ci va anche tu, là, Gianni, comunque ciao. Poi c'era Drog, c'era Giuseppe, sono appena rientrato, e poi non so, Parchetto, comincia avanti, cari, prendi tu e così fai girare. Là. Ehi, ehi, sei stato su porta, quello che ho fatto un saluto, ma un quarto d'ora poi sono uscito, ma non è che anche lì non è che mi piace molto. Va bene. Sì, allora aspettiamo di Fabrizio, Giuseppe, il fratello preferito c'è la terra. Grazie Claudio e doppio grazie, indovina stasera che cosa ho fatto grazie alle tue indicazioni. No. Allora cosa hai fatto? No, ho spedito il tutto. Ah, perfetto, allora sia io che Massimiliano non faremo altro che battezzarti come hanno fatto noi, quindi al momento in cui ti arriva la documentazione nominativo, vieni qua a casa mia, sei invitato. Sei invitato a trasmettere qua col tuo nominativo da casa mia, così possiamo dire che ti ho battezzato io, che mi hanno battezzato a me. Cappa, lo puoi dire forte, lo puoi dire forte, e ne approfitto perché ci sono diversi amici che ti ascoltano per ringraziarti pubblicamente, sei stato veramente gentile. Grazie di nuovo di tutto perché mi hai dato giuste informazioni e grazie. Tu grazie, sei fatto un dovere, io sono abituato a radio a fare sempre il mio dovere, anche se qualcuno magari pensa che, però io sono abituato a fare radio a modo mio e quindi bisogna che accettate il mio modo di fare. Qualsiasi cosa, la mia massima disponibilità, comunque ripeto, ribadisco, sei invitato a casa mia appena ti arriva il nominativo a farti conoscere, a farti una bella chiacchierata in Sardegna, fuori dalla Sardegna, in tutta Italia e nel resto del mondo, perché non hai nessun problema da qua. Cappa, grazie, grazie di nuovo. Ok, niente. Mi è scesa però una lacrimuccia quando ho battuto poco fa Luca, devo dirlo onestamente. Ti ho detto, se tu entri, se non dico io ti faccio biondo, biondo con i capelli neri. Tu entrali, facciamo la zinga, ti faccio bello bello. Certo, sono bello dal vivo, sei matto. Lo so, ma noi poveri albanesi di Sardegna stiamo giocando con soldi finti. Sentito, scusate, non so se è preparazione o cosa sia. In ogni caso, vabbè, è sempre bello anche giocare così, dai, non ci stanno problemi. Massimiliano, a te il microfono le prendi, quindi a breve avremo un nuovo radioamatore e quindi il Salvatore sarà il benvenuto nella banda dei radioamatori, perciò non ci stanno problemi. In attesa che poi decidi che cosa prendere, ti fai un po' un giro di cose qua, perché le radio ce ne sono tante, sia V che U, monobanda, bibanda, base, non base, e poi ti farai un resoconto di quello che effettivamente vorrai prendere, ma ti consiglierà sicuramente anche Massimiliano, visto che mi conoscete. Ok, a te Massimiliano, le prendi. Eia, va bene. E già, poi quando è il momento già lo tattacchiamo a Salvatore. E vabbè, io adesso mi stava venendo così il gusto di, infatti ieri mi stavo guardando un po' di linee Drake in rete, mi studiamo un po', riesco a trovare il ricevitore e trasmettitore con la sua colonnina alimentatore della linea C, mi sa che una me la voglio prendere. Mi è venuta questa cosa della valvola, adesso vediamo un po' cosa riesco a trovare. Salvatore, hai voglia, vuoi vedere quella cosa dell'imbarcadero o vuoi rimandare? Cosa c'è in cambio per trovare io la linea C? Non so, ma sta parlando ieri con Walter, adesso vediamo un po' come la cosa, in cambio non saprei sinceramente, anche perché le cose che devo fare fuori le ho fatte fuori, ma stavo vedendo un po' i cosi, intorno a 600-700 euro si riesce a trovare una linea Drake funzionante e completa. Mi faccio perdere quello di fatto, perché c'è la B e la C e non ne accende neanche una. Ma io non parlo di base, io parlo fuori, cioè no, in giro, ho visto i prezzi e siamo intorno a quelli cifre, capito? Te le danno garantite, addirittura qualcuno anche dai negozi restaurate, in ordine, con la garanzia anche. La mia era di quello gruppo di Carlo, nuova di pacca, addirittura ancora scala meccanica, perché quella che c'ha Valtre, quella modificata con il trasmettitore a scala digitale, non mi piace, a me la modifica. Quando uno usa una linea Drake come ho usato io per anni, senza bruciare neanche una valvola, sia col trasmettitore che col ricevitore, perché sai benissimo come va usata, deve essere a scala meccanica, lì si vede il vero operatore. È inutile che tu vai a lavorare con una linea decametrica. In ogni caso ho appurato che tutto il sistema funziona, sapete che l'auto, quella ufficiale di Embarcadero, non spiega esattamente completamente tutti i passaggi, alcune cose sono da andare per intuito. Comunque è fattibile, funziona, si può fare senza nessun problema. Adesso devo vedere un attimino di trovarmi gli oggetti di terze parti. quelle che io uso solitamente per il facimento delle schede elettroniche, questa roba qua, e vedere poi come portarle sul Mac. Poi abbiamo anche il discorso della porta seriale, di queste, vabbè, te magari non le usi, però magari ti potrebbe essere tornare utile un domani, vedere un pochettino se si può fare la portabilità da una parte all'altra. Esatto, infatti quella è la parte che eventualmente potrebbe presentare maggiori rogne, però già quello che hai avuto modo di appurare è importantissimo, perché cioè, si può aprire veramente un mondo, poi è chiaro, ogni cosa in queste portabilità è tutto da vedere, però questo è già più che un bell'inizio. Tra l'altro c'è appena uscita l'X2 hanno rilasciato un update e devo riuscire a capire come metterlo sopra senza bruciare il crack. Comunque è uscito, adesso lo devo cercare. Ma ascolta, scusate un attimino gli amici, avete trovato l'errore dell'emulazione del crack, diciamo? No, è importante che lo lanci dall'icona dei programmi, da lì, e ti lanci l'ambiente, me l'ha fatto quando l'avevo lanciato separatamente, all'interno della directory. No, io lo lancio da menu start e cerco e faccio partire l'ambiente da lì, però io mi sono reso conto che se non ci lavoro, dopo un po' vado a vedere che c'è la finestrella di errore, emu, non so che cosa, vabbè, faccio ok, cioè vi dico di chiudere e quello va avanti, non è che chi si blocchi o che cosa, però esce questa finestrella, messaggio di errore. Ho capito, non so su qual è l'host come sistema, ma su 7 lo stai provando? 7 64 bit. Può darsi che ci sia qualcosa con il sistema, allora io lo sto facendo girare su XP. Ah, magari è quello lì, vabbè, che per il resto penso che la macchina è abbastanza performante, è un quad core Intel 3 giga e 8 giga di RAM, perciò la voglia di prestazione ce n'è. Forse è un problema delle 64 bit, perché ho notato che molti applicativi danno a rogne con 64 bit. Pronto? Sì, dimmi Cla. Domanda, aspetta che c'è un po' che non riesci di ta domanda, ma stai usando sempre l'MC43, sì? Sì, sto uscendo male. Pensavo che avessi acquistato l'MC60, veramente ti sto ascoltando divinamente bene, sempre con la stessa regolazione che abbiamo fatto noi. Sì, c'è un chiodo lì, è un chiodo virtuale, però è come se avessi un chiodo qua. La lezione del giorno è stata fotografata e non si è più mossa da là. Si vede che si è rimasto lì. Complimenti. Va bene, era solo una domanda, perché ti sento talmente bene che è difficile dire che stai usando un MC43 col 440. Ottimo, veramente, complimenti. Avanti Gianni, doppio lungo, quindi. Gianni, non mi dire che ti sei già addormentato. No, non è capito, stavo cercando il microfono. vabbè. Ari Sassari, sei ancora lì, devi chiedere a chi gestisce il sito, gli passi la foto nuova e lui te la cambia. Ah, ecco, positivo. Dovrebbe essere Nando. Dovrebbe essere Nando che gestisce il sito, vabbè, ho telefono e mi metto dall'ufficio della porta. Aspettare che domenico mi faccia il cambio. E poi gliela porto perché la sostituire quella vecchia, tra l'altro quella casa vecchia, quindi non mi va di avere cose diverse da quella che è la realtà. Ok, anche perché questa è un'altra cosa, radio nuova, posizione nuova e sarà radio nuova, quindi un'altra gubba. Va bene, Luca riprendi. Scusa, ma perché non fai come ho fatto io? Mi sto spendendo a fare 20 euro all'anno, se mi ricordo che cosa. Con Aruba mi sono preso il dominio, ilmenonattivo.com, e lì me lo gestisco io, e mi faccio tutte le modifiche, faccio tutto quello che voglio. Ci ho messo, c'è il servizio di QSL in tempo reale, c'è il coso, come si chiama... tutti gli spot che viaggiano in tempo reale, se tu vai dopo che entri c'è la prima pagina dove c'è tutti gli spot, c'è tutto qua, e quando vuoi te lo dici tu, capito? Poi puoi fare un link sul sito dell'associazione qua a Sassari e viceversa, come ha fatto anche Walter, come facciamo solitamente, ecco. Sai che sono 20 o 30 euro all'anno, è una cavolata, No, sono Silvia, parli ma cosa che senti, io come mi gestisco sul cluster, basta, c'ho quello che mi ha installato più che volte, gestisco tutto da lì, la parte, c'è un'altra, però su quello è beta, ci vado pochissimo, lo sai, non sono molto avanti col PC, è rimasto tra l'altro ancora invariato, vedi, però ho sempre in allestimento il mio sito, cioè il canale nominativo, quindi non più proprio zero URT ma di FB, che l'hai lasciato tu in fase di allestimento, sempre quello, con tutta la documentazione nel cassetto che mi avevi detto di non buttare via, quindi posso farmelo per i fatti miei, allestirlo con la nuova foto, con tutto, mettere il nuovo nominativo e avere il mio sito, è sempre fermo lì quello. Se c'hai il login password lo possiamo recuperare e poi metterlo lì. Se me lo fai avere te lo cambio, perché io non... Ricordarmi è una cosa impossibile, assurda, e se c'è che però si può fare l'accesso e dobbiamo aggiornare un po' tutto. Anche io all'inizio ho iniziato così, poi non sono proprio acquistato, perché quello che hai tu è di terzo dominio, di terzo livello il dominio, non è diretto. Ma se no, ripeto, come ho fatto io, come ha fatto Walter, come fanno solitamente tutti i radioamatori solitamente, ci così investono quelle 20-30 euro annue all'anno e hanno il sito per i fatti loro, ti danno anche l'email con tu, io ho proprio l'email col dominio del mio nominativo, capito? Cioè è una cosa più carina e poi hai più strumenti per avere un po' un servizio un po' più decente rispetto ai siti gratuiti che ti mettono pubblicità, poi quando devi, per esempio, quando dai quando fai il collegamento o che cosa, ma si scambiano le varie informazioni, è più semplice anche dare il sito, che è www.ilmionominativo.com, cioè in un attimo lo dai, invece nell'altro caso è fare quello che di Tista abbiamo fatto, c'è il dominio è sottotitolo, perciò di fare tutta la pappardella e l'altro se ne è già fuggito, capito? Vabbè, ma non c'è nessun problema, se hai i dati di accesso, se me li ripassi te lo cambio, ti scarico lì le foto, ti cambio il nominativo, lo svecchiamo e sei a posto. Io c'ho tutta la documentazione che mi ha detto di non buttare. No, beh, le mail io ce l'ho, su Tisca ce l'ho le mail, capito? La posta elettronica, quello lì è proprio il mio nominativo. oggi è arrivato l'elicottero, però non c'ero a casa, se l'hanno riportato indietro. Quanti prego? Dai, saluto tutti quanti. Ciao Claudio, ciao, tutti quanti sono rientrato, dai, mi ero allontanato un attimino perché dovevo fare una cosuccia, dai, dentro 10 minuti vi ascolto, faccio una chiacchieratina 10 minuti, un quarto d'ora e poi chiudo tutto che domani mi devo alzare presto, molto presto. Riprendi Claudio e fai girare. Ok, buonasera Fabrizio, mi ha ascoltato. Va bene. Ok dai, comunque Massimiliano, lo vediamo, ti passo tutta la carta e poi ce lo terminiamo questo sito, cambi il nome attivo, cambi tutto, lo facciamo, lo facciamo come Cristiano, ci mettiamo le foto nuove, anche perché sono varie nuove, amplificatore nuovo, insomma c'è tutta la roba, la sezione che non c'era mai, tutti i microfoni finalmente al suo posto, eccetera eccetera. Allora, manca un 440, ma non è così importante, è meglio che non ci sia. Avanti Salvatore, prendi. No, sorridevo perché sono potuto quanto la fatica che ho fatto per procurarlo, poi mi sento dire da te. No, basta gai con i 440. Aspetta, se la sto sinceramente parlando, la sto andando con 430, è spento perché a me con una cosa non scende dalle scatole, no? Non è che sto lì a minimizzare o a parlare monosillabe, capito? No, non mi interessa e basta, no? Ma non è una radio, non scende dalle cose, anche perché talmente, ne ha avuto talmente tante che, ma in una riparazione, minimo minimo mi costerà 500 euro. Mi costerà 500 euro, ma la riparo e rimarrà qua, poi se c'è qualcuno che mi dirà 500 euro glielo darò, altrimenti rimane qua, non me ne frega niente, ma rimane qua nel senso che rimane spenta e continuerò a usare il 430 perché mi sta dando delle soddisfazioni oltre il normale, capito? Era una radio che io ho usato poco, avevo sempre 440, adesso sto usando invece il 430. La più affidabilità è più, non è più tenera come il 440, è di prima generazione, quindi la componentistica è fatta diversamente, a me mi dà più affidabilità, tutto qua. Infatti qualcuno è venuto a trovarmi, ma ha detto ma la vendi quella? No, guarda, se ti vuoi portare via il 440 portalo via anche adesso, ma il 430 non si toccherà qua. Avanti Luca, riprendi. Annaggia, mi sto ascoltando la giugata, oh, un po' stanchino oggi, ma mi ascolto qua, molto volentieri, tra un po' mi sa che faccio la fine che ha fatto già. Ma io sono sveglio. Dove? Hai scritto già su Facebook, quando ho 100 anni io tu ne avevi 120, 130. E come sta affondando, perciò mi sa che ci incontriamo. E ci incontriamo, tu ne avrai di meno di me, ma ci incontriamo. E cosa? Di anni. Ah, di anni o di amici su Facebook? Di anni. Perché lui mi ha scritto a 100 anni. E gli ho detto, a 100 anni anche a te, così quando siamo anziani ci troviamo con Baccolino. Perché non ve l'hai fatto oggi? K. Anche mia moglie. Infatti ce ne siamo andati a pranzo fuori, io, mia moglie e mia figlia, già, da infarto, ma senza, ma da infarto, mi sono attaccato a queste ciotole di formaggio cotto, calamari fritti, patate fritte, pechignati di mezza, torta, vino a volontà, guarda, lascia perdere, da incubo, mi ho dovuto prendere un digest, stanotte non ho neanche cenato. Auguri allo stomaco, mi fa proprio, gli ho fatto bene, mamma mia, già va bene, ci vogliono queste mangiate, fanno bene allo spirito. Auguroni, io non sapevo che era il tuo compleanno, auguroni Gianni, a 100 anni, a 110 dai, perché adesso la vita sta aumentando. Grazie. Dico come ho detto a Luca, lo auguro anche a te, così almeno ci troviamo col Baccolino. Che Dio ti senta. Dice, federale di mia, vabbè, federale no, Anna, Gianni. Grazie a tutti. Complimenti, auguri. Gianni, ma 52 sono 50. 52. Cacchio, è quello che dimostri. Lo so, sono San Giovanni lì. I nuovi mostri, io ho senza capelli, ho una barba bianca, cioè così, tutti storti, già lo dimostra. La braghetta del bottonato. Ha tutta le mostre tutti di lui. Ah, la mazza che stanno in varia. Io da 51, ci siamo proprio un anno di differenza con Gianni, capito? Un anno e un mese di differenza siamo, quindi fai da bravo. Auguri già. Grazie Antonello, grazie. Mettetevi in catena, mettetevi in catena. Francetta, 20 ottobre, Auguri anche la batteria, auguri anche a 100 anni. E se non sono 100, sono 99, se non sono 99. Pedro, buonasera a tutti, auguri Gianni, io li compio domenica. Grazie. Claudio e compagnia Campana. Grazie Gianni, grazie. Ti rifarò domenica quando ti sento, se no ti come se te l'abbia fatti, dai. Comunque grazie a tutti da parte della mia signora, ti rinnovo anche gli auguri a te Gianni, anche in radio sai che non ci parla, però ho detto fai gli auguri a Gianni e grazie a tutti per gli auguri. Ciao Gianni Capri 2, auguri anche a te, auguri anche a te, va bene, io prossimo mese, non te lo dico perché così me ne vado di nuovo quando lo so, sono qui mi tocca a pagare bene, pagare pranzo eccetera. Ciao Antonio Barracuda, ciao Sandro Tigre contro Tigre, il cambio non so manco più va, comunque riprenda qualcuno e faccia girare avanti. Riprendo io, di novembre sì, quindi tra. Claudio. Sì, 20 novembre 1960 e mia figlia è 20 novembre 1987. Che è quello delle cose programmate, io sono un matematico, ma religioni. E io invece a gennaio, me ne servono di dicembre, ci facciamo la catena. Io. Ehi, a ottobre, novembre, dicembre, dimmi Massimiliano. Fai gli auguri a tua moglie da parte nostra, mia moglie e dei bambini. Grazie Massimiliano, ti ho già sentito. Auguri, grazie, contraccambiate a tutti. Grazie. Auguri alla signora. Grazie, intanto non mi parlo più da bere che mangio il peso butto. E io ti faccio i doppi auguri, quindi voglio una doppia bicicletta, A me mi ha fregato Facebook, cavo, le colleghe l'hanno visto su Facebook, come sono entrate, auguri, io pagaci da bere. Ah, la tua riservatezza. Dice perché tu quando ti iscrivi devi mettere la data, se non è che ne metti una sballata. Sì, ci ho fatto la fifi a mezzo proiamine, scusate te, ma è che Facebook non è che... Io infatti vorrei cancellare, vorrei uscire del tutto, ma ho quasi 900 contatti, per carità, poi tutte persone troppo e così via, e quindi mi dà un po' fastidio, capito? Tutti gli intimi amici, le chiedono conoscenze, eccetera, eccetera, ma altrimenti guarda, sarei uscito alla grande. Tu perché me l'ha fatto Luca credo l'anno scorso, boh. Sono 800 tutti, quasi 900 contatti, intanto mi manda, oggi ad esempio mi ha mandato il contatto Gambino, quello del produttore del sangue. Gambino l'ho accettato, ogni tanto me ne arriva 1, 2, 3, 10, ma non è santo, va bene. Ok dai, facciamo girare, siamo alle 20, ma notte, ma Sandro per te il microfono, buonasera, stai arrivando magnificamente a Sassari, bella radio, bel segnalone, avanti. Ehi capo, buonasera a tutti, dai, buonasera circolare a tutti, e auguroni a chi ha fatto il compleanno, alla signora Marti e a Gianni. Però io adesso la prossima volta che ti vedo con Torres a piedi non ti rispetto, perché quasi quasi ha ragione qualcuno che dice che i 50 anni si vedono. Va bene, sto scherzando comunque. saluto anche, saluto lì anche Gianni Capridura, sperando che riesca a tirarmi fuori, dai, rilancio il mic a Gianni Capridura. E ce la fa, sono in quello che si è finito, sta cercando un buio di parlare con voi, mi sto ascoltando, non so se anche incontrerò la moglie di Claudio. Un abbraccio a tantissimi auguri, lui compie il 23-52, non siamo così vecchi, anche se tante volte mi guardo allo specchio, sarebbe che poco sono un come si chiama, sono lì, quanto Claudio, sono robusto, bello, ma prima ero uno scheletro, 20 anni fa non ero così, comunque. Ok, rilancio un po' a Claudio, mi danno i politici, non la tua gara, sono proprio finito, non mi sto addormentando l'attuale, in verità. Questo mi hai visto in giornale o su Facebook, perché io non ti conosco, non ci siamo mai visti, quindi tu mi hai visto da qualche parte allora. Ma sono vecchietto, domani è stato come papà, però si è messo a camminare di un figurino, c'ho 78 anni, papà, un figurino, si si è messo a fare movimento, a piedi, ha tipo fatto così, ma da lui viene fatto il dottore lì. Quando gli ho detto che ti chiami Marti, mi ha detto che ci aveva una lippo negli anni 50, ma non vorrei di più altro, perché tanto, guarda, tanto torre ce l'ha nel cuore, si è vissuto tutta la gioventù. E niente, grazie, ho visto così, magari se i migliori di quelle foto che ho visto, io sono, come si chiama, una bombetta, sono quello pieno, prima che non è pazienza, mi spiegito. E Gianni anche, che anche lì lo scherza, comunque signori, è stato un piacere, Claudio, tutti gli amici, Luca, c'è Fabrizio, c'è Antonio Paracuso, insomma se mi dimentico con i rischi perché sono finito, guardate, sono rientrato pochi minuti fa a casa e sono proprio, ho fatto tre cose, qua 50 fuori e non ne ho fuori, la cosa. Se non mi viene il sonno, se continuo a parlare mi viene il sonno, però quel ti ascolto e poi qualcuno lo spegnerà. Di nuovo rimetto il tutto a Gianni W. E K, mi sono fatto le fotografie adesso con le apparecchiature nuove e le ho messe sul filo, Luca, se devo vedere. Stava il codice fiscale. Vi arrestano tutti, già l'altro giorno la Divos mi ha fatto la fotografia, io ero girato, ma ho visto le foto, vi ha fatto la fotografia a tutti. A me mi ha detto che mettevo una parrucca, non mi ha mandato nemmeno, mi ha detto ma perché non ti metti la parrucca che sei senza capelli? E io le ho mandato un'altra mail, ho detto perché non la metti a tua sorella che l'ultima volta che l'ho provata non ce l'aveva. Non mi sembra che ti mancano molti capelli, Nella foto che ho fatto invece su Facebook era il periodo estivo, siccome usavo la moto, allora io me ne raso un po' tutti, capito? Ma anche adesso ce li ho pronti tutti perché avevo pedati proprio ieri, perciò ma il lavoro che faccio devo tenere i corti e i capelli, perché è sempre un pericolo, e quindi è così, ma questo tutto mi è uscito con questa battuta del cacchio, allora io doverosamente gli ho detto, gli ho risposto a piena pagina di Facebook di metterla alla sorella, la parrucca, che l'ultima volta che l'ho comprata non ce l'aveva. Dai, santo, sei fatto. Sì, no, riflettevo sul passaggio dell'amico di prima. Come me dicevo, tra un po' dirà anche il codice fiscale di Claudio. Ma io non ne ho problemi, io ho sempre dato il numero di telefono, indirizzo, non ne ho problemi, c'è talmente una regolarità qua a casa mia che non ho problemi proprio di nascondermi, figurati, sanno che conosce il ragazzino, quindi non ci sono problemi per me, io sempre così sono, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, chi vuole qua sono, capito, chi vuole qua bene così, Claudio. Arrivo. Mi sento benissimo, di Santiago, perché no, non è, non dico di abbassare, ma fatti sentire almeno il segnale, fatti vedere. C'è uno degli Stati Uniti che fa un po' di passa sopra. Va bene, riprendi, dai, fai girare. Sì, dai. Poi siamo a quota 5 di portante, modulato 20, dai, dovrebbe andare bene. Io c'ho il piccolino qua che mi sta matando il cervello. Va bene. No, vabbè, poi. Aspetta, se stadio ci conosciamo sempre, perciò anche se si dice nome e cognome, ma sì, come puoi. Quando si era di amatori abbiamo il vizio di metterci a quella z.com, poi di bastonare il nominativo nostro e sai nome e cognome, via, indirizzo e quant'altro, senza nessun problema. Riprendi, chi facciamo, prendi, vabbè, Gianni, e poi fai girare. Aspetta, cosa, faccio una cosa al computer. Riprendi tu, Ducati. Va bene, chi c'era? C'era Salvatore, mi sembra, se non sbaglio. Appa, sì. Io però, cari signori, vi saluto perché è ora di andare a nanna. Quindi grazie del questo a tutti quanti. Grazie di nuovo. Alle prossime. Ciao Max, riusciremo a fare quelle prove. Forse ho trovato anche il, ripensandoci a dove stavo armeggiando, forse ho trovato anche dov'è che stavo sbagliando. Ok, saluto a tutti quanti, riprendi tu Max. Ok, d'accordo, vabbè, non c'è problema. Tanto poi magari ci mandiamo un sms e poi facciamo un altro schedule per fare le prove. Comunque se fatelo, no? C'hai la webcam, non c'è problema, fatelo un coso su Skype, così magari metto a farti vedere, magari così sì, tra il Mac e il PC, poi quando se dovesse capitare poi già ci vediamo. Non c'è problema, allora, io adesso mi sto continuando un attimino a fare alcune altre prove, però visto che sta andando, funziona, se mi cerco un po' di VCL in giro, quelle che servono a me, poi se ti dovessi interessare te le passi, non c'è problema. Ci sentiamo, buonanotte e un buon risveglio per domani. Avanti Gianni. Ciao, ci sentiamo, dai, salvato. Passa una buona nottata e sogni d'oro. Grazie a tutti. Ciao Gra, ciao Antonio, ciao Luca, questo fine settimana ci lasciamo un altro OK Corral, così ti alliscio un'altra volta. Ciao, buon proseguimento a tutti quanti, grazie per il QSO. Ciao, rilanciate Gra, ciao. Ciao, saluto, ciao. Buonanotte, ci riascoltiamo domani. Buona giornata, grazie a te per le due chiacchiere. E io per accedere il microfono ad Antonio Barracuda di Ossi, che ha fatto un ingresso per i saluti, poi è rimasto un po' inattivo. Antonio, ci sei? No, Antonello è entrato solo per i saluti e basta, allora va bene. Fabrizio è quindi uscito, Salvatore è uscito, Luca sicuramente ha bagnato il PC, l'ultimo che ha preso il microfono è Gianni, quindi spetta a Sandro PT e Company. Avanti Sandro. Ok, dai. Saluto Salvatore lì. Ciao Salvatore, ben ascoltato e sentiamo alle prossime. Sì, vabbè, io ogni tanto mi sto ascoltando, sono qua che è il solito mio routine di preparazione per l'indomani. Va bene, niente, nulla, non mi manca da dirvi qualcosa perché al momento non mi viene nulla. Gianni, stavo facendo quel lavoretto al PC, adesso ho scaricato le foto e via, chi devo vedere sono lì, andare, ne ho messo su Facebook, anzi ne ho messo addirittura la foto a fianco, la foto diciamo a fianco al mio link. La foto del, cosa hai messo, la foto del letto o la foto del radio? Ecco, dalla radio con mobile nuovo. Ah, mi ero sbagliato, per la foto a letto, perché l'altra volta ne ho visto uno che doveva mettere la macchina e invece ha messo la foto del garage. No, già si vede un po' la spalliera del letto, perché sono seduto sopra, perché io il letto lo posso utilizzare sia come poltrona sia per coricarmi, per sdraiarmi, là. Posso usare due barriere, ho questa prerogativa. E io lo so come si è organizzato già, mi ricordo. No, io mai già, lui. Poi guarda, tu immaginati che il cameretto ho tolto anche la TV. Immaginati proprio io quando vado a letto, non vedete niente. E qua tra l'altro ho cambiato la poltrona proprio, anziché mettere quella blu d'ufficio che l'ho passata al piano PC, nell'altra piccola me la sono toccata lavoro. aspetta, la palla giusta è reclinabile. Cos'è reclinabile? K. Vabbè, hai detto, ma scusate, si può dire, non so, è reclinabile, ok. Ho registrato il break, dovrebbe essere di Antonio, però passo il microfono a Massimiliano, ti fa entrare lui, avanti Massimiliano. Sì, no, dai, fai girare che ho le mani nella tastiera, sono in ascolto, se mi chiamate poi riprendo. No, avanti il break. Ben sentito Claudio, ben sentito Gianni e anche Massimiliano. Salvatore è già andato via. Caffa. Grazie, no. Buone notizie, dai. Brutta esperienza finita bene. Alle 7 di stasera mi ha riaccreditato i soldi sul conto banco posta, quindi è andato tutto bene. Meglio così, dai. Ah, ti rivolto, io pensavo che si parla dell'associazione, invece stavi parlando della parte. Vabbè, sarebbe stata una bella notizia anche quella dell'associazione, ma quando ti rientrano 400 euro così, sinceramente, che erano un grosso punto di domanda. Adesso che c'è i soldi, lo puoi comprare l'apparato? Quasi, sto aspettando ancora la risposta di questa persona, ma poi guarda, la conosce anche Claudio e Andrea, che si deve prendere l'apparato di Gianni perché lo deve regalare alla sua 25. Mamma mia, ce lo fa fare Andrea. Dio al dottore, ha detto che la deve lasciare perdere, 25 servono per altro, non per pagare baracchi. Capito? Dio. Lasciatevi stare nel conto soldi e a tutti i bimbi. Non c'è 4,40, ce l'hai la radio, già quella. Già 4,40. Io l'ho spento. È spento, no? Sto usando il 430 e appena arriva l'altro, che Sandro mi dà l'ok. La scatola sua stessa, non faccio altro che dirottarlo subito a Gavare, a Milano, e glielo verso immediatamente, anzi gliene verso due, e con quelle 800 euro sicuramente che mi darà, prenderò un'altra radio diversa proprio totalmente, che non sia Kenwood. Basta così, con questo 4,40 mi sono già stufato, mi è venuto 4 il radio se non avessi riparato tutti questi cacchio di 4,40, ma per carità, basta così, mi sono stufato, ma io lo dico, mi stufo di una cosa, e così e basta. Avanti, Sandro, riprendi e fai girare Massimiliano, allora in quell'X, quando vuole entrare, la porta è aperta, avanti Sandro. Perché ti stai stufando dei Kenwood, Claudio? Mi meravigli, boh. Hanno qualcosa, non stanno pianando bene, cosa c'hanno? Sono qui. Ti voglio rispondere. Se ne vuoi liberare, se avvenisse un punto, realmente non funzionano. Nel momento in cui mi dici che sta arrivando da cosa, che è stato riallineato, che ti dai la tua parola, ma non c'è neanche bisogno di quello, io prendo senza rado. Ce n'è una qua nuova, e l'altra che dovrà arrivare, non vedo proprio, capito, l'è perso, Gianni ti devo rispondere, ce ne sono troppe, io ho dato input e sono contentissimo perché è una rete eccezionale per chi non l'ha mai usata, come Antonio, come Fabrizio, come Salvatore, sicuramente c'è Luca che dovrà prenderla, forse sei tu l'unico che non, ma ce l'avevi e l'hai data, quindi coordinato, guarda, dai, sono un nuovo, tempo di arrivare, la prossima ce ne sono già due. Ma quando tu uscirai come questo con 430, allora io te ne regalo due di 430. Sono delle radio intramontabili, lo sa il fatto che su internet da 5 anni a questa parte, perché nel 2007 ci sono ancora annunci vecchi che vendono il 440 allo stesso prezzo di adesso. Se tu vai a comprare un quadriband, come stavo dicendo, o un lotte 57 ad esempio, anche il Galaxy è così, è uscito relativamente da poco, relativamente, perché è già un paio d'anni che esiste sul mercato, se non anche di più. Nel giro di pochi mesi perde 300 euro di valutazione e lo paghi allo stesso prezzo di un 440, che è un HF, un quadriband, capito? Claudio. Sì, Sandro, ti rispondo su, guarda, qua c'è Sandro, io ho dato un quadriband UHF, 50 mega e HF, allo stesso prezzo di un 440, e qua c'è Sandro che te lo può dire. Avanti Sandro. Ok, vabbè, te lo confermo, sta viaggiando ancora, però non qua, non in Sardegna, è fuori dalla Sardegna e sta galoppando ancora bene, tutto lì, però a sentirti quasi mi stai facendo perdere tutta la fantasia del 440. Allora, diciamo che il 440 è un signor cavallo da battaglia, ok? La mia fissazione, adesso non so se la mia sia una fissazione oppure forse perché mi trovo meglio o così via, io sono professo sempre nella vecchia tecnologia, capito? Nei vecchio. Claudio sa benissimo attualmente in questo momento cosa sto usando e come ricezione è una schioppettata, capito? Claudio, a te il mic. Non si discute con quella radio che stai usando adesso e ti consiglio di continuare ad usarla, Sandro, di continuare ad usarla, per carità, quella è una delle mie prime radio avute e ti posso garantire che qualità prezzo a oggi penso che sia la migliore in assoluto per la 27, assieme al 440 e a tutte le categorie. Attenzione che io non sto disprezzando il 440, mi sottolineo una cosa, che Claudio Spargliano ne ha avuto 31 di 440, 31, di cui 17 140, 14, anche 10, 680, 5, 430. Salve è venuto qua ieri, ne ha visto un'altra, io ne ho due 430, però è lì perché non può uscire in questo momento. Più avanti può darsi che esca anche quella. Però io, per carità, non sto disprezzando il 440 perché qua a fianco a me è spento, perché preferisco usare il 430 per mille motivi. Non c'è niente comprata nuova dentro la scatola. Ribadisco ancora con Sandro, perché è l'unico che facciamo movimenti e mi dà una mano, soprattutto quando ho necessità di spedire e fare, che lui è molto più veloce di me e ha delle conoscenze. Quindi la scatola che è partita il secondo è praticamente di questa nuova che ho acquistato, perché l'altra scatola non ne ha. Non so dove l'ho messa, se è rimasta da qualche parte, se è su in mansarda, non lo so. Comunque questa era in garage ed è la scatola nuova di quello che hai spedito tu, Sandro. Ma vedere quella radio, Antonio, e vederla in vetrina, tu pensa che possa essere una radio sirena la posso anche accendere, commutare e parlare con quella, non cambia assolutamente niente. Questo discorso è dato per farmi venire la pulina in bocca, ci è riuscito, ma so già che voglio quantomeno il diritto di prelazione, se la devi prendere sappi che quei soldi che sono rientrati sono pronti. Allora non ci siamo capiti nel contesto del discorso, io radio a Sassare non mi rendo più, la mia radio ho già fatto un contratto fisso con DAE, DAE, guardate sul computer lo trovate, DAE, ok, io a dicembre, il 21 dicembre parto alla fiera di Genova, metto tutte le radio Piemonte tranne la linea completa del 430 a T250, TS50 e colonnina esterna con M60, quella è l'unica che rimane qua, tutte le altre radio Piemonte andranno via, poi io prima di partire le lascio ad Alfredo il nome di chi lui può ricevere le telefonate della mia città, dopodiché darà lui le cose, capito? Però io radio Sassari non ne vendo più, non ne vendo più per mille motivi, per mille cose, perché non voglio fare radio altrui, non voglio avere problemi con nessuno, mi piace fare radio, farla a modo mio giustamente, però non avere problemi con nessuno, perciò io verso e voi comprate dalla concessionaria, se la concessionaria vi dà garantie ve le prendete, se non ve ne va io non devo dare garantie a nessuno, perché intanto mi si è considerato che da qua escono in una maniera, poi arrivano da altre parti e diventa per me una cosa brutta da dire, che vanno malmenate forte le mie radio, a me me ne duole il cuore, perciò io non do più radio a nessuno, prendetevelo dalla testa, né radio, né microfoni, niente, posso regalare uno strumento, un'antenna, vi serve qualsiasi cosa, venite, ma chiedetevelo, ma non mi chiedete né radio né microfoni, non do più niente a nessuno, tu. Mi dispiace, chiuso il discorso. Farò gli rimango un attimino in quelli. Facciamo girare, non vi emozionate, Gianni, le qui. Che vuidiano che eri, capo, adesso di colpo vuoi cambiare casa addirittura. Allora non mi hai ascoltato, allora svegliati, ascoltami bene, io mi tengo la linea 430 che è della Kendall, questa io sto modulando, è il DS430. Ok, mi tengo la linea completa del DS430 già e basta. E boh, poi di tutte le altre radio Piemonte di Via Roma, tu non sei venuto qua, Sandro è venuto anche ieri, avanti ieri, io ho 340, 2430 e 2440, secondo te cosa devo fare? Fare la casa Piemonte, a parte tutte le altre, Icom, Iaesu, eccetera. Ma di Kenwood ce ne sono troppi, quindi devo farli fuori. E siccome Sassari non le voglio dare, per mille motivi, l'unica radio che c'è a Sassari che si chiama 440 è quella che c'è Roberto Quadratto, che non ha mai toccato la mia personale. La prima che ho venduta a Sassari, la seconda l'ho venduta ad Alghero, a Pinangelo, che non ha mai toccato. La terza di 440 l'avevo data, non mi ricordo a chi, però non a Sassari, e 140 che c'è Luca a Sassari, basta. Ah, è quello che c'è a Califf una per tipo te la presi tenuta, capito? Non dico due, ma almeno una. Vabbè, ma poi ognuno decide. Ho capito che ti puoi prendere quel Marche 5 che ti fa colina già da un po' di tempo. Già, non l'ho mai potuto comprare perché diversamente mia moglie mi avrebbe dato un calcio a sé. Magari che costava 5.000 euro tiro, quindi ma adesso possono fare pazzie, purtroppo siamo operai, non siamo né dottori né capitalisti. Ma oggi che il Marche 5 ha un prezzo intorno ai 2.000 euro, ce la faccio e non la voglio prendere, perché se non me la prendo adesso non me la prendo mai più, quindi. E così ho due Iaesu, ho padre e figlio, ho le linee ICOM che quelle non si toccano, VHF, ho una linea che ho avuto per giocare il 27, tutte le altre VHF, e quindi penso insomma di poter andare in pensione tranquillamente, e altrimenti non fa già mettere nulla per tipo. Se tu vieni qua, quando io sto trasmettendo, tutte le altre radio non è spente. Inutile far vedere luci e contro luci, e quando in una radio si va in trasmissione e l'altra è accesa, succederanno. Io non condivido le persone che vanno ad ascoltarsi come, se parliamo di baracchini, un po' in baracchini, ma se parliamo di radio, tu lo sai come io definisco le cose, ok? I bei baracchini, perché sono bei baracchini, io lo definisco baracchini. Un Galaxy per me è un baracchino, nonostante sia una grandissima radio, il Magnum che ho avuto è un grandissimo baracchino, però sempre baracchini stiamo parlando. Quando si parla di radio io parlo di HF, quindi le HF che sono sintonia continua non hanno niente da fare con i baracchini che hanno 6 bande, 10 bande, 20 bande, io sempre baracchini chiamo. Non condivido le persone che si mettono le cuffie e si ascoltano col baracchino a fianco. Non va bene, perché se lo faccio io con le mie radio HF, è un problema perché se entra RF all'interno, lo stadio finale va a farsi fottere. Non pensate che un HF possa fare cose che può fare un baracchino, non va bene, capite? Allora io quando faccio l'autoascolto, ascolto col 950, perché? Perché il 950 c'è una scheda Moni, proprio fatta apposta, dove tu inserisci, c'ha tre attacchi, cuffie, tasto di telegrafia e Moni. Io inserisco la cuffia nel Moni, accendo la radio, schiaccio il pulsante Moni e ascolto la mia modulazione senza andare in trasmissione, però, senza far entrare la portante nella radio. E così puoi fare radioascolto, non un cazzo che uno si debba ascoltare con la propria radio ascoltandosi in cuffia, distruggi tutto così. E anche lo smitter te lo fa andare sfondo scala e distruggi tutto quanto sì. No, quello io non lo faccio mai. Lo posso fare magari nel momento in cui sto facendo una prova di un microfono, voglio sentirmi come sto uscendo, ma tutto lì un attimo se lo faccio pure. E ti fa come la parla ascolta, ti fa, è un tasto che ti fa la parla ascolta e non dà nessun problema a quello lì. Oh Claudio, sei passato dal giorno all'abisso. Tu sai di cosa sto parlando, anche perché quella radio io ce l'ho grazie a te, quindi è chiaro che devi intervenire in momenti che tu senti il tocco magico. Appunto Sandro, stiamo parlando di radio, non stiamo parlando di Mombetta, per carità di Dio, attenzione, non fraintendetemi, io sono un cd come voi, a prescindere dal fatto che posso usare radio Iaiso, radio Tenuto, radio Icon. Però a me i baracchini belli sono sempre piaciuti, sempre. Io il Magnum l'ho avuto, Gianni, il Galaxy l'ho avuto, è quello che hai. Sai cosa abbiamo fatto per averlo? Nuovissima, grandissima radio, bellissima radio, però devo dire una cosa, che sei l'unico, e dico l'unico, sottolineo l'unico, che col Galaxy io ascolto benissimo, forse perché è nuova, forse perché sono stato io a fartela avere e quindi ho toccato con mano prima di fartela avere, tu sai cosa abbiamo fatto, e quindi so di chi era, come la, lasciato lavorare perché mi sono giocato quasi 78.000 euro e quindi penso di aver fatto un gioco che mi passa la candela e altro che Marchi 5 e Kenwood e così via. Perciò per il momento va bene così, poi a dicembre vediamo che cosa trovo. Ok, il microfono per chi c'è rimasto? Un attimino. Ma giusto per pura curiosità, il Galaxy che c'ha Gianni è mica quel Galaxy che del povero Carletto? No, non è molto piaciuto, perché se Gianni l'ho preso io sotto sua chiaramente indicazione, perché lui mi ha detto mi affida a te a suo tempo, vedi se riesce a trovare molto, perché lui mi aveva trovato due e sono andati tutti e due male. Quindi questo Galaxy arriva da Olbia, era di un radioamatore di Olbia che oggi è vicepresidente, se non presidente del comitato regionale, un carissimo amico, una persona che ho conosciuto tanti anni fa quando lavoravo ad Olbia, ed era dentro la scatola nuovo, dentro la scatola no, era nella stazione radio dove c'è lui che è simile a questa mia, dove c'è una sezione di barattini. Io sono andato a trovarlo un giorno e ho detto no, grazie, questo non vorrei dire, no, guarda, è la mia radio quando facevo CD, non l'ho mai toccata, quando l'ha accesa mi sono spaventato, era un pochino impolverata però nuovissima. Ho detto dai Paolo, non è per me, però come che sia per me devo farla vedere a un amico che era Gianni, perché la sta cercando. Ma ha detto guarda, non so neanche cosa vale, tu non ti preoccupare del valore, il valore te lo dico io quanto ti ho detto, tu me la devi dare e basta, l'ho convinto, me l'ha data, l'ho portata a Sassari a casa, e a Gianni gli ero accennato, lui era in transito tra Porto e Sassari, gli ho detto che se per Gianni ha provato quella cosa, ah benissimo, mi ricordo, sono abituato a parlare nella realtà, non ha niente a che vedere con quello di Gianni. Sandro, capito? Ricordato, diciamo, quello lì perché il gas che c'aveva più al povero Carletto gliel'avevo dato io, era soltanto, diciamo, questo particolare, niente. Niente di particolare. Va bene, dai, passioni sono passioni, poi le passioni arrivano a un certo punto, poi decadono, un po' rimangono, insomma, è un po' così, dai. Vabbè signori, io vi lascio che intanto devo fare la passeggiatina al signorino, prima di tutto. E poi ce l'andiamo andata. Vabbè, dai. A Leo. Leo? Pronti? Pronti? Vabbè. Dai, salutoni. Ciao Cla. Gianni e poi non lo so se c'è qualche altro in ascolto. Ok, riprendi già. Ah, ciao Sandro, buona passeggiata. Allora, ci sentiamo. Una carezza anche al cagnolino. Avanti. Il cagnolino, ma quello non è quello grande, sa? No, è grande. Insomma, non è grande, no? Diciamo, è taglia media. C'ha 5 anni, mi sembra. 5 kg? Pesa 5 kg? Non è grande, è taglia media, è una taglia media. Tutto bianco, sembra un barboncino, infatti oggi l'ho portato a fare il trattamento. Il trattamento mi è costato 35 euro, vabbè, comunque. Ma giusto perché c'è, giusto perché ce l'abbiamo sempre in casa, insomma, ogni tanto parassitari, ogni tanto lo shampoo qui, ma giusto perché è in casa e quindi meglio sempre tenerlo in ordine. In Piantonese l'ha portato. Dove? Piantonese. Sì, in Piantonese, lì proprio all'inizio dove c'è la bambina elettrica. Sì, lo porto sempre lì. Ma mi pare che non ce ne siano altri, vero? Li ha portato prima, c'era quello che c'era i punti che sono poi divisi, c'era quello lì che li faceva. Ma adesso non lo so, ma mi sembra che quello dei punti mi sembra che sia lo stesso di questo, di qualcuno Torres, non vorrei sbagliarmi, Perché prima erano associati con quello che vende gli animali in via delle Viglie, adesso che prima era via Antonelli, ti ricordi? Sì, mi sembra di sì. Sì, va bene, dai. Ok, dai, vi lascio, ciao già. Buon proseguimento, ce la risentiamo. Ciao, Cla. Ciao. Ciao Sandro, aggiornami se ti chiama Carlo, e così insomma iniziamo a preparare la maniera. Va bene, ciao, un abbraccio, saluti a casa, buona passeggiata con Bob, vai già. Appagato. Claudio, ma ti stavo dicendo, il Mark 5, 2000 euro nuovo costa. Nuovo? No, Mark 5 nuovo costa quasi 6.000 euro, no Massimiliano, 5.000 qualcosa. Ma se andiamo facendo affaracci, 5.000 euro, 5.500. Ma te ce l'ha vero? Non lo so se ce l'ha vero. E poi ce l'ha vero, poi l'ha versato per comprare 7.000 euro. Ha comprato quelli di categoria superiore della Incon, non so se ce l'ha vero. Quello che hanno centimetri più piccolo, e anche per avere il doppio display, c'è cioè il display unico, ma la categoria è quella. 5.850 con suo alimentatore di linea. Già. Carola. Per andare a comprare 6.000 euro, ma la devo usare il Babbo Natale. Cosa c'è un Babbo Natale? E costa 2.000 euro il 950, nuovo, 1.800, questa 1.800 con la colonnina così, era l'MD100, sa? Adesso non lo so, considera che lo Yaesu FT2000 col suo alimentatore di linea costa 7.450. Bello, ho preso Walter, 2.000, già. Che cazzarola. Io mi ricordo che una volta sono andato a casa di Walter e mi ha detto c'è il Mark 5 che è ancora inscatolato, non l'ho ancora tolto. E mi ricordo queste parole, poi non l'avevo manco aperto, dice ancora inscatolato. L'FT 1000 MT Mark 5 si chiama. Io ho l'FT 950, quindi la categoria è quella, però quello è l'FT 1000. MD Mark 5, capito? Che Mark 5 è la sigla dei 200 watt, quello magari devono stare fino alla MOSFET, 200 watt, 4 conversioni, doppio WiFi come questo, è un sistema di modulazione digitale che fa paura. Io, credimi, con tutta la mia esperienza, Sandro lo sa, era qua l'altro giorno, ho detto come ho preso le filtre, Sandro, non te l'ho detto, per vergogna, ma non so neanche come si mettono i filtri in AM-Fluid. E vabbè, sono cose più complicate, sono cose innovative, quindi è normale. Ma anche sono d'accordo con Sandro, mi piace più la roba semplice, quella roba lì è troppo complicata, troppo menu su menu, sotto menu, già viene bocca di mano su. Ma io sicuramente non mi metterò a giocare in 27 con la radio 2000 euro già. L'FT950 è esclusivamente con le bande decametriche, quindi con le bande materiali, lo uso solo in SSD, non lo uso qua in 27. Ripeto, ribadisco che in 27 continuerò ad usare questa radio che è il 430, basta. Però siccome io ho un 440, il 440 non quello che ho mandato, perché quello non è il mio, quello è di Tino, il mio è qua, uno era qua e c'era Sandro, poi io non sono ricomprato, ed è di una persona che non posso dire di chi è il radio, te lo dirò quando ci vedremo domenica, e quindi dovrò sicuramente operare in una maniera molto, molto triste, perché altrimenti perderò sicuramente l'amicizia se la radio va via da qua, però sono costretto a farlo perché devo aggiungere un bel di là e quindi devo far fuori tutte qua sono 3x4 12 e siamo già a 1200 solo tra 140 e 180, in più con i 2 440 io arrivo a quella cifra, se aggiungo 100, 200 euro, 300 euro non mi fanno ricco nel povero, ma arrivo a quella cifra per tenere il Mark 5, e quindi sono costretto a darli tutti, tenere solo 430, linea completa, T250 che è bellissima, linea completa già, questa è quella che tengo adesso, quindi una la tengo, sarò sempre che dobbiamo, però con una radio, ma devo passare per forza la Yaesu perché mi serve per fare attività materiale, nonostante abbia l'FT950, però mi serve anche quella, tutto qua. E il tuo sta dicendo le diritti a che vuoi girare? Diritti? Voleva prima Grove e poi mi ha detto che serve un amico suo, non lo so. Ce l'ho fermo qua, mi do il cuore, se avessi avuto il posto per me se l'avrei messo qua. Ma tutte queste radio mi piacciono molto e non voglio cambiare, anche perché qua se avessi avuto un'altra stazione base me l'avrei messa, e non lo so adesso se ho tutto a un Kindred, non lo so, l'unica cosa che mi frena è tutti i casini che sono successi, tu lo sai, ed è disturbavo il telefono, disturbavo qua, disturbavo là, quello diceva che disturbava il televisore, insomma, con quell'apparecchio lì è forse troppo potente, da reca disturbi e vici, quindi è quello che mi blocca, se no l'avrei avuto ancora qua. Ma già, in quel tempo io me lo conoscevo a Pier Pascoli, che Franco si stava occupando di prendere lampadari, sistemare alcune cose eccetera, io mi stavo organizzando per radio, e la prima radio appunto che avevo attaccato, inserito proprio a trasmettere era il 140. Adesso non mi ricordo se non mi dice no, l'hai portato a Via Pascoli per mettere le memorie, per memorizzartelo, e quindi ce l'avevi tu, io ce l'avevo il mio, che è questo che è qua, a fianco a quello tuo. E come c'è solo radio, niente, stavo permettendo, e ciao a tutti, sono qua a Via Pascoli, mi ricordo, c'era Luca di Scimmia Geniali, ma tu mi sono trasferito, e quindi sono qua, sono tante e tante. E basta, allora, mi pare che abbiamo parlato per un paio d'ore, un'oretta, eccetera, perché tra l'altro io ero nella camera, e mia figlia già l'hai visto, e quindi non avrei potuto stare sino a tardi. L'indomani, quando io sono sceso a prendermi il caffè per andare al lavoro, mi ha trovato quello lì di fronte, che tra l'altro ci conoscevamo di vista, che è Gigi Moro, il carattiere. Mi sento che l'hai messo nel barchino, tu dici perché? Ecco perché, ieri sera ti sentivo nel televisore, decover ancora non ce n'era, o che dici, forse non avevano ancora avviato il sistema in Sardegna, non ricordo. Comunque, no, oggi è impossibile, ma trovare perché non credo, no. Ci vediamo allora di tanto e facciamo la prova, ho chiamato Franco, perché era di sabato, poi quando è rientrato a casa con la scena in campagna, ho chiamato Franco, gli ho dato un portatile, ho detto vai a casa sua. Mi ha chiamato col portatile, mi ha detto vai parla, permetti, io parlo, senti la tua voce, si sentiva chiara chiara dentro il televisore, ai. Sono spento, sono perché la solito lì, ma mi fermerei l'impianto. L'impianto sotto tutto a posto, ma centralina c'è, cioè, sì c'è un amplificatore su l'antenna, capisco per l'antenna, no, ma io su, sono salito non serve lui, ce l'aveva buttato in terra questo amplificatore d'antenna, che tra l'altro vedeva tutto bloccato, tutto un casino, ho detto chi, fai fare a me, qua fai tu, parla in un tempo della volta in doia, e devo avere il televisore, ok. Abbiamo tagliato tutto con Franco, gli ho messo, sono andato a Fulgaro, ho preso tutti i collettori nuovi perché c'era il maschio film, era tutto legato, tutto incasinato, accendo il televisore, io scarrella, fammi vedere, ci lui ha butto da Dio, torno a casa, provo, non ha potenza, acceso il amplificatore, ha giocato di tutto, niente, più neanche una riga, quindi attenzione che molto molto il problema non è nostro già. Lo so, ma di chiunque sia la parte del problema sono sempre scocciature, è tutto di buono nel giornale, i lettini in tutti i portoni, Isa, e se ne esaurita, io so di chi sia. E niente, mi stava cercando questo e quell'altro, quando è anche il marito, voleva sapere, ma che sto... dove si entrava, quale portone si entrava, dove anche appena abitava, quello del condominio, meno male c'era, se ne abbaccio, gli ha detto scusi, ma lì chi è? Cosa ci fa dentro questo portone? Io sono il condominio di fronte, devo andare a dire, ma ascolti, gli ha detto. Poi un'altra volta è venuto un tipo, mi ha bussato la porta del palazzo di fronte, che disturbava il televisore, e io ho detto basta, avammi No, non li tengo più. Per questi casini, poi non muturi tranquillamente, non ce la fermo a camodura perché ogni volta che muturi pensi che magari disturbi. E vabbè, ma lì ne avevo parlato anche con la mano, ma il torre, se tutti i megalomani, il torre rompevano le scatole. Ma tu pensi che il torre non le rompessero le scatole? Ah? O pensi che il torre con la voglia che aveva da sempre di fare radio, come noi, nato nella 27, tu passato la animatore che là, c'ha tutti i diplomi di Conte e belle varie, ha mollato per quel motivo, perché le rompevano le scatole. Addirittura l'amministratore di condominio di quel suo palazzo, che poi non era opera Spirito Santo perché non teneva amati i cani, un giorno c'ero io e gli umano immaginato, capito? E gli ha detto che aveva pure l'antenna, perché da quando c'era questa antenna disturbava tutto il condominio, non si capiva che ha detto salga lì a toglierla, ma no, salga lì a toglierla, però attento perché se la vedo io la faccio cadere giù, la butto giù e fa te, ma l'ho fatto quando era lì, sono umano, ma se lo perde, non se lo permette, lui qui e là sono fatto un casino, ho visto quindi anche Torre avrebbe questi problemi, perché? Perché quel condominio era inutile in mezzo scene. Tutti nella Roma, hai capito? Ma allora, vedevano, passavano la motocarrozzella, faceva le righe al televisore, e il problema eri tu, Ettore, sempre, perché lo sapevo, capite? Lo sapevo, l'unica volta se ti ricordi che ti ho chiamato, ti ho detto già, ma voi l'aveva in 80 metri, che stavo provando a toccare 5,24, in 80 metri, tu hai corso una colombe, che sono in 80 metri, 8,350, col Torre, era a casa di Torre. Per quello ti ho chiamato e ti sento 80 metri e tu mi hai detto sto provando a trovare chiudere subito per essere disfatto perché aveva un'emissione allucinante quel baracchino e te ne sei disfatto, ma non credo che un 140 a me non mi ha mai dato nessun problema a quella radio, è perfettissima, è perfettiva, la cena ogni tanto cambia, non me ne accorgete neanche, ce l'ho messo sempre attaccato, non me ne accorgete neanche, ma io a volte modulo con 140, capito? Quello è il problema. Il problema è che se la gente non ha un impianto efficiente, non ha un impianto fatto bene, oppure pensa di essere tecnicamente preparato per poter fare agganci, sganci, attacchi di covere, tutti i fili avanti c'erano in terra questa massaglia. E quindi abbiamo fatto tutto nuovo. Se però la gente vede che tu sei disponibile, io ti sto disturbando, vediamo, se sono io mi metto a completa disposizione, se però non sono io, signora, a me non me ne frega assolutamente niente. Si arrangi. Quello che ti ho sempre detto, no? E l'hai spuntato, mi sembra. Però se io mi sono messo a disposizione, ti ho fatto vedere che il problema era il tuo, te l'ho dimostrato, te l'ho messo a posto, non hai più avuto problemi. Io dalla Pasqua riuscivo anche con un kilowatt in mando laterale, non mi ha mai detto niente nessuno, eh? Quindi era sicuramente un problema di persona, e così è lì già. Non credo che se tu vai a comprare 140, vai e entri dentro il televisore. No, non mi credo. Assolutamente, tu con il decover adesso lo sa. Avevo telefonato il contore per provarti pari e mi ha detto che gli ha mandato le scomposte a casa una volta, gli hanno controllato, prima di tutto hanno controllato le antenne sue, lui ci aveva amplificato l'antenna, è arrivato un verbale più maledetto e lui si è pagato l'intervento. Dal giorno dice che non gli ha rotto più le scatole, dice fai anche tu così e buonanotte, perché questa qua dice è una taccagna, si attacca sempre. Poi quando era vivo il marito temporale, ex CB tra l'altro, veniva a rompere le balle un CB, ma a fine nia. Lui ha modulato, lui il padre si chiamava, cioè temporale, fusibile il padre era. Sì, io li conosco, me li ha fatti vedere una volta la buona anima del Torre, me li ha fatti vedere, e sono persone che non vogliono niente, cioè. Quindi dal momento in cui tu sei tranquillo e sereno, hai la tua licenza, i tuoi permessi, le tue cose, io avrei continuato a fare quello che dovevo fare, non mi sarei mica disfatto del 140 perché pensavi che fosse la radio, non avevo assolutamente niente. Non c'è assolutamente niente, non ho mai avuto niente, bellissima radio, nuova, io ce l'ho qua, troverete. Ce l'ho qua, se devo darle via, le do via per uno scopo, e basta, per lì fermano a parte, è sempre fermano a parte, però siccome deve andare via, io gli ho già detto, beh, che quella radio è da finire di allineare, e ho detto, no, non ti preoccupare, te la pago normale come il suo valore, poi c'è la linea, io la metto in vendita. Ogni tanto lui, prima di metterla in vendita, le controllo tutte le radio, perciò non ci sono problemi. Non vado a fottere per 50 euro di allineamento, 100 euro di allineamento, non mi frega niente, scusa, quando compro una radio superiore, quindi le 50 euro per allinearla se le paga lui e la radio è a posto, per dirti quella di Luca Flip, perché non è mai uscito bene, mai, perché? Perché non volava senza il coperchio e stava lì col cacciavite e tocca, poi me l'ha proposta a me, quando io lo sapevo già, perché la nuova buio la radio, 30 bucanali, invece tipicamente è nuovissima, solo che internamente ci sono dei vetrim da allineare. Massimiliano la stava facendo, poi l'ha lasciata così e così l'ho lasciata io, non me ne fotte nulla. E l'ho pagata al prezzo di come pago le cose che vanno bene, 300 euro. Gli ho dato 300 euro. Capito? E me la sono portata via, ma no, perché le sigla non solo aveva un problema, che te l'ho detto, dammela a me Ciccia. E lei sempre lì ferma da una parte. No, non mi interessa. Capito già? Però la tua, che la uso, la tua e la mia, la uso, sono perfette, non hanno niente, non ne hanno problemi con le radio, è difficile che vadano fuori sintonia. Tu pensa a quella che c'è Luca, è la mia prima che ho comprato, e senti come esce. Tra l'altro prima di dargliela gliel'ho messa, gliel'ho abbassata di watt e poi è venuto qua e gliel'ho ritirati su. Ma è perfetta quella radio, non hanno niente da... Non è che si sfasciano così facilmente. Guarda quella di Giampaolo, quella di Giampaolo era intoccabile. Sì, quella di Giampaolo c'è bene adesso. Quella di Giampaolo c'aveva quattro trimmer completamente spaccati, perché sono andati a lavorarci senza il cacciavite evolutivo e li hanno spaccati. E siccome io ce li ho dentro la bustina, li ho messi nuovi e allineati, fatto uscire la radio come Dio comanda, e poi messo la ceramica in ogni trimmer, in modo che se qualcuno li tocca io me ne accorgo. Poi l'ho tirato sull'LC, in VAT, l'ho fatto tutta la regolazione AMFM, insomma, l'ho fatto diventare uno spettacolo, tanto è vero che adesso in AM è uno spettacolo da sentire, nonostante lui abbia un'antenna anche in condizioni non del tutto efficienti. In FM deve addirittura abbassare la potenza, perché quella di 140 è regolabile la potenza in FM, non sono tutte le radio che regolano la potenza in FM, capito? E quindi quella è regolabile verso 80, e lui ogni volta che va in FM deve abbassare la potenza, perché da 150 watt in FM prima ne dava 40. Capito? Poi ci ho lavorato di notte gli ho lavorato apposta. Quindi siccome ci ho lavorato le mani con quelle radio, non ho problemi di toccare. Però che abbia un problema principale, come avevi constatato tu, che era 140. No, era da 140, era da lì imbecille che ti rompeva le palle. Oh, non lo so. Io so che l'ha fatta anche a Luigi, lo stesso problema, infatti poi la mano adatta. Che gli dava lo stesso problema, gli sembrava il televisore. Io c'ero io da Luigi quando mi ha chiamato, che gli avevi dato tu, e lui mi ha chiamato perché c'era questo problema. Vabbè, vediamo qual è il problema. Io ho attaccato la radio e lui allora ci aveva la boomerang. Aveva la boomerang sotto l'antenna del televisore. È chiaro che una radio che modula su quelle dimensioni lì, nel senso che insomma non ha 5 watt, perché c'è un picco allucinante quella radio, io non l'ho toccata quando me l'hai data, perché andava bene così, quella radio modula con la portante a 5 watt e va a modulare a 40-50, quindi penso che ce ne sia per i maiali. E faceva delle righe, non è che sentiva la voce, faceva delle righe, ok? E 600 watt, lui dice una maniera 600 watt con la 48 a casa, quindi se non metto proprio quello non capisco perché lo presto un pare con questo. Poi io ti ripeto, l'ho usato in via Pascoli e l'ho usato qua, non mi ha mai dato nessun problema, quindi è questione proprio di gente che non sa quello che dice, ecco, per me. Sono e continuo a rimanere in querenza, ma come mai si divulga non si sta più facendo sentire? Ci siamo sentiti al telefono proprio ieri perché c'era un problema lì, punti mi ha chiamato. Infatti gli ho fatto la stessa domanda e mi ha detto, Gabriele, mi programmo tutte le mattine alle 4 e quindi stare in radio è un casino. E poi in questo periodo non sta molto bene, diciamo così. Questo mi dispiace, era solamente per dire che la sua mancanza si sente. Tu mi hai detto se riesce ad entrare, riesce ad entrare il venerdì, quindi domani, il venerdì sera, però a volte ci ascolta e non ha voglia neanche di parlare e quindi preferisce rimanere in quell'X. Capito? Tutto qua, però sappi che lui è sempre presente, ci ascolta. La mattina, vedi che non lo senti neanche in radio la mattina. È difficile perché sente a Cagliari. No, ti ripeto, si sente la sua mancanza, mi dispiace se sta male e spero che si riprenda al più presto. Sta male non è una cosa esattamente, dico sta male perché ha un sacco di cose da fare, quindi non è molto attivo, dai, prendiamolo in questo senso, ma non è lui che sta male comunque. Ma capo, sono in querenza che mi sto ascoltando. Ok, spero non ti stiamo ammaliando. Capito hai Gianni, com'è la situazione? Lo so, ma non lo capisco loro, quando li disturbi ti dico, quando non c'era l'antenna, per dire, non avevamo nulla, adesso che c'è l'antenna ci disturba. No, non condivido neanche per cose, perché io quando mi sono perdito in via Pascoli, non ho avuto mai impatto con nessuno, niente. Mi sono prima informato nel condominio, mi hanno detto guarda tizio è l'amministratore, sono andato e gli ho detto, l'ho detto che era un nuovo inquilino di via Pascoli, ho un problema, mi hanno detto se c'è un problema vediamo secondi il geometra. Dopo due mesi se n'è andato. Siccome io stavo questa domanda in natura, che io penso che se ci fosse stata lì una un'impresa di costruzioni di antenne, vedete la parola che stavamo facendo, noi dicevamo anche che sono pazzi, cioè con tutti gli isolatori, con tutti gli agganci, con tutti i tronchetti, con tutti gli occhiali in acciaio, gommati, tassellati, messa tutta il silicone, non bianco ma nero, per essere uguale al cartone catrato. Cazzo, lavoro così non l'ho mai fatto in 40 anni che è trentenne. E lì sono imbecille, si è permesso a dire lì lì non può forare, magari sì. Non mi ha fatto mettere un tirante come volevo io. E tu, quando vuoi, basta dirlo, compri l'attrezzatura, noi saliamo e lo mettiamo dove c'è stato fatto il foro, ti ricordi che abbiamo messo il silicone, ti buttiamo il silicone, ti buoniamo l'occhiello e mettiamo il tirante dove. Ma per me quell'antenna è eterna, sai cosa vuol dire eterna? Eterna, perché c'ha quattro tiranti sopra, quattro tiranti sotto, con tutte e due le cravatte, quindi orientati su tutti i venti impossibili, immaginabili, pertanto quell'antenna è eterna, da essere vicino non le piace mai. E uno, quello che non mi ha fatto mettere lui, che l'ho attaccato alla staffa dell'antenna condominia. Quello non l'ha detto del visore, non credo che non era venuto quello del televisore, che l'antenna ci avevamo anche noi. L'avevamo detto, cioè si poteva attaccare lì all'occhiello della zona, ma è leggermente più corto, però fa il suo lavoro perché c'è gli altri sopra, quindi non cambia niente già. Mi è brutto che come è basso tocca il muro, infatti l'avevo messo un pezzo di pompa per non toccare direttamente al muro. Sì, sì, sì, infatti l'avevo messo proprio per non raschiare il muro, ma è un sistema che adoperiamo, adopero anch'io quello, quando sono all'angolo, così che la staffa rimane praticamente all'interno della mantovana come quella, si mette un pezzo di pompa per far sì che quando il tirante tira e raschia sul muro non si rompa, capito? È un sistema che usiamo un po' tutti e quindi facciamo così, ma come montaggio mi ricordo solo il giorno che l'abbiamo piazzata già, quindi se mi ricordo quel giorno forse eravamo ancora su Facebook che giravamo tutta l'Italia. Cazzo, per poco non ci fa volare l'antenna a nulla. La marcia è quattro persone, tu, io, Natalino e Luca Flipper Golibratti, che facevano paura, eravamo ancora più giganti di adesso. Cazzo, cioè, l'ho vista brutta perché se ci ha tirato il tubo, tra l'altro se ti ricordi, avevamo già staffato, il tubo era già dentro le staffe, però dovevamo chiuderle. E lì la rapida del vento ci ha tirato staffa e tubo, quindi l'antenna stava volando. Se non la mantiene Luca, l'antenna stava volando, tu hai messo il braccio subito e io mi sono messo in voce a gridare, cazzo l'antenna, cioè volava nella strada, facevamo danno. Tu gridi, ti sarebbe anche parcheggiate giù. E il primo giorno, quel giorno lì, te lo ricordo che l'abbiamo ancorata alla canna a fumare, è salito il giovane, ti ha detto quello lì se si stacca e fa danno la responsabilità è la sua, se lo ricordo. Sì, vabbè, ma era una cosa provvisoria, poi di domani abbiamo sistemato tutto, se ti ricordi, tra l'altro quella fredda del vento e la foga di gravità non l'avevamo neanche vulcanizzata, quindi abbiamo dovuto riscendere perché si è riempito il capo d'acqua. Avevamo fatto una mezza cagata il giorno, poi fortunatamente ci siamo ripresi il giorno dopo, la settimana dopo, poi alla fine insomma abbiamo fatto lavoro alla grande, ma non era tanto lavoro in se stesso che bisognava terminare e fare, quanto l'assemblaggio dell'antenna che era perfetta, cioè non ti ha mai dato problemi, nulla. Sono antenne che purtroppo vanno montate in una certa maniera e soprattutto mai rispettare quella misura che danno e non si via nuda per una misura conforme. Bisogna rispettare gli strumenti, quindi uno su, uno giù, non si piatta mai da solo quell'antenna, mai. Io le piatto da solo perché ormai c'è una praticità, ma mi porto lo strumento su con quel portatile 27, le attacco il birbi e mi dà c'è sempre un euro di stazionare, dopo 9 anni che l'abbiamo piazzato. Avanti, grudino. Niente, ancora le ciabattine. E ancora io c'ho una pupa. Va bene, no, ma già, quella è piazzata bene. Piazzata bene, no, non ci sono problemi. Va benissimo, perché io c'ho sempre uno a tutte le parti, addirittura con le, vabbè, con la TV 150 è sempre automatico, ma non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto partire, perché quello parte importante, capito? Non è come un 440 che devi pigiare tu la tettura lì, è tutto in automatico proprio perché c'è il carretto inserito dell'autocontrollo del PTT e quindi quando c'è un rosso che tu schiacci la portante, già lo conosci, lui accorre automaticamente. Non l'ho mai visto dall'1 al 40, non l'ho mai visto partire, quindi parte solo quando mi sposto su 45 e basta. Quindi è perfetto, perfetto. Va bene, dai, che ora sono? Le 11:30, io vi saluto. Perché che ci abbiamo fatto due comparazioni, due rettori di tante cose. Dai già, tanto fa un po', credi anche tu, e così no, non rimango solo. Ciao Gianni, ciao Antonio, Luca, chiunque stia ascoltando su canale 10, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. KK. Ciao, buonanotte, anche se ti ringrazio a tutti cordialmente e buonanotte a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte a tutti. Stai ascoltando anche tu, hai cibo. Sono Ventura. Io sono Ventura e sono tecnicamente là. Ah, io ti ho sentito che hai salutato, ma cazzo c'è bisogno di stare in corrigisi, scusa. Quel segnalone che hai? Schiacci, a me vedi entrarci o no? No, vai, che non volevi entrare. Mi stavo aspettando a Domenico, ma non l'hai sentito. No, Domenico rientra, perché ci siamo sentiti poc'anzi, verso mezzanotte, mezzanotte 10, mezzanotte 4. Però portate la lotta sono male, eh? Per domenica, perché io sono a lavoro domenica mattina, capito? Quindi quando sto rientrando, se si fa trovare in testa dei siti, così passa qua e facciamo quelle foto che dobbiamo fare. Così mi cambia il profilo di Facebook, ho capito. Ho capito, devo lasciare detto qualcosa. Se ci sentiamo, se ci sentiamo, anche domani, no, se no è troppo tardi, aspettare a lui è troppo tardi, già mi sono occupato a Maglienti. Se ci sentiamo, glielo dici, che domenica mattina io sto lavorando, e che se si fa sentire, io verso le 10:30, 11, se non so essere come tutte le domeniche mattine, ci prendiamo un caffè, poi veniamo qua e facciamo le foto, capito? Oppure se ci sentiamo al telefono al baracchino prima di domenica, già ci sentiamo. Ok, va bene, riferirò. Va bene, qualche dai. Ma c'è più il servizio di buonanotte, più ti sentito, dai. Qua è partito. Andando si era buonanotte. Sì, è partito a Napoli, tale fratello, era in difficoltà. Ma ritorna? Dopo 6 mesi. Sì. Quanto si dice? Ah, si sta portando il baracchino, dove si è? Beh, si avrà portato il baracchino e modulerà da Napoli e vedremo la voglia. No, non lo conosco, non è grande questa persona. No. Avrà 46 anni, 47 anni. Uia. Ma è sano comunque, ma è andare in mezzo di bambino. No, ho avuto un brutto incidente da ragazzo e alla testa e mi ha scioccato. Ma ecco che le pettine che non ha seguito oggi. Sì, beh, non è molto sano, eh. E io non sono accorto, non lo conosco, ma ho sentito parlare e mi è sembrato appunto che avesse qualche problemino, dai. Vabbè. Ok, dai Anto, se sentiamo meglio più tardi, ditelo. E ci aggiorniamo. 144 euro fa, e auguri alla tua 50, auguri anche a Gianni. E ci si riascolta, dai. Ok, grazie a parte del mio mondo, dai. Ci sentiamo e ci aggiorniamo. Ciao, buonanotte a tutti.